si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Somewhere else feels. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Lo sviluppo dell'Italia negli ultimi 60 anni è stato uno sviluppo sempre e soltanto di speculazione, quindi si è costruito per rubare, si è fatta speculazione edilizia e dovunque. Tu hai la sensazione che la spesa pubblica sia stata fatta rubando senza dare le garanzie di sicurezza ai cittadini. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare 18, 20 e 30, 800 24 00 24, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Avete appena sentito Vittorio Sgarbi e insomma oggi il ministro Galletti ha detto mai più condoni edilizi a proposito di quello che è accaduto in Calabria, centinaia di evacuati, un nubifragio terribile, ha piovuto tantissima acqua in poche ore, mai più condoni, l'abbiamo sentito dire migliaia, milioni di volte. Sarebbe bello che una volta, per una volta, qualora ci fosse, ci dovesse essere un altro condono, come ci sarà sicuramente, qualcuno prendesse atto, ne traesse le conseguenze e si dimettesse da ministro, da presidente della regione, da presidente della provincia o del comune, dopo aver detto basta condoni, altrimenti non serve più a niente. Sentiamo chi sentiamo, il sindaco di Firenze, Nardella. Vogliamo cominciare a dire, e qui guardi, non c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di fare bene i piani urbanistici nelle città. Facciamo piani urbanistici a volumi zero in tutta Italia. Io parto da un presupposto, che il bilancio è quello, e il bilancio che ci stringe è probabilmente il rapporto che abbiamo con l'Europa. O tu allarghi questo bilancio, o altrimenti noi continueremo a prendere gli 80 miliardi che stavano prima al sud e li portiamo un miliardo là, poi un altro lo rispostiamo là. Ma cioè, sono sempre gli stessi. Io credo che sia assolutamente ingiusta l'atteggiamento, la posizione dei vescovi, perché in realtà noi stiamo assistendo a una vera invasione. E probabilmente questo atteggiamento di sottovalutare. E sempre con Augusto Minzolini siamo entrati in tema rapporti tra la Chiesa e la politica, dopo lo scambio di battute, insomma, il Vaticano che attacca i politici piazzisti, la Lega che attacca il Vaticano che risponde anche al governo dicendo quasi assente su questa materia. Sentiamo il parere di Emanuele Fiano, PD, per alcuni candidato sindaco a Milano. Mettere direttamente la Chiesa dentro il calderone politico come fa Salvini e dire voi siete uno come gli altri, e in particolare in questo frangente voi siete dentro quella cosa lì perché è business, è veramente, ha toccato il fondo, diciamo così, della versione peggiore della laicizzazione della politica. Cecilia Strada, abbiamo sentito ieri, presidente di Emergency, cosa risponde ai sindaci che si rifiutano di ospitare immigrati perché dicono, sindaci per lo più della Lega, che così vogliono difendere i loro concittadini italiani. Sentiamo. Mi dispiace essere un cittadino della regione Lombardia quando sento queste dichiarazioni. Sono francamente imbarazzanti, ma è imbarazzante tutta la retorica dell'invasione, è imbarazzante un paese che dice siamo in ginocchio, così come è imbarazzante un'Europa che dice siamo invasi. In Europa ci sono 1.700.000 rifugiati, poco più che quelli che ci sono nel solo Pakistan. Non c'è la possibilità di frenare un'esondazione che potrebbe essere senza limiti. Fra un po' avremo più extracomunitari che italiani. La Chiesa non si pone il problema dei corpi, ma delle anime. Allora, se tu lasci morire delle persone in acqua, se tu non dai il loro soccorso, manca il principio cristiano dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Sono due mondi diversi, ma entrambi con delle ragioni. I love you, je t'aime, me gusta, me encanta, my music, mi musica, nunca se quebranta. Io soy el ritmista e la delantero, più mischio, più spezzo, più mi sento intero. Buon viaggio, coraggio ai nuovi esploratori, di arriva e di abbacco, di dentro e di fuori. The world is a mess, il mondo è un casino, I hate it, I love it, lo odio, lo amo. I clip e dick baby, te quiero, je t'aime, I like it, me gusta, esplode la jam. Señor de mi alma, la forza es conmigo, il ritmo redondo, andiamo, so we go, make music, we dance and we party. Sempre il momento per innamorarti e per partire, no stop, no excuse, vamos amigos, no time to lose. La Chiesa alza la voce nel dibattito sull'immigrazione, l'abbiamo sentito, attacca i politici definiti piazzisti da quattro soldi che strumentalizzano le questioni dell'immigrazione a soli fini elettorali. Critica anche il governo, però ieri Monsignor Galantino l'ha detto chiaramente, quasi assente il governo per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione in questi mesi in Italia. Ma la domanda che ci facciamo è, la Chiesa ha le carte in regola per fare la predica ai politici? Lo chiediamo a Don Virginio Colmegna, buonasera. Buonasera. Presidente della Fondazione Casa della Carità. Don Colmegna, esiste la Chiesa che accoglie? La Chiesa che accoglie certamente esiste, perché è un contenuto fondamentale del Vangelo, cioè il senso dell'amo al prossimo tuo come te stesso, ricostruire tutti come figli del medesimo padre, di qualsiasi religione appartenenza, è uno dei contenuti fondamentali. Questo si mette dentro in un mondo così complesso e così articolato, ma è un pezzo di profezia che deve richiamare anche noi con molta umiltà, in punta di piedi se si vuole, ma questa è, un, è sì, irrinunciabile, ma perché è la bellezza e la grandezza del Vangelo messo a disposizione e che ha un rilievo anche culturale e anche sociale, per cui non so se la Chiesa come istituzione in numeri è debole, fragile anche lei con tanti errori, ma certamente in questo momento non può fare altro che spingere a questo livello nelle sue articolazioni anche territoriali, poi chiede alla politica, e certamente ha un compito importante, quello di ricostruire le condizioni istituzionali, perché lo fa in quanto queste persone sono figli del medesimo padre e tradotti in termini sociali sono persone che ci richiamano i diritti, i doveri, responsabilità e oltretutto una grande risorsa, perché l'ospitalità fa star bene la società in questo mondo qui, in questa situazione. Certo, ha bisogno di leggi, di regole, non di slogan, non di battute. A proposito però di questo, adesso parleremo anche di come funziona la, l'esperienza della Casa della Carità a Milano, però a proposito di slogan le voglio chiedere, condivide i giudizi di Monsignor Galantino? Qualcuno ha detto che la Chiesa ha cambiato modo di comunicare, perché è stato molto, molto franco, molto diretto, molto spiazzante, ha definito politici piazzisti, i politici Che... di fronte a certe frasi credo che condivido bene, ha fatto bene di dire questo, sì, per dire guardate che su questo come su altri temi vale la pena di... è cambiato un po' il linguaggio con Papa Francesco, tutto il linguaggio paludato che sostanzialmente fa intravedere ma non fa intravedere, non compromette, è un linguaggio di schieramento, certo, ma di schieramento però... non di esclusione, sì, di capacità, e quindi credo che non solo condivido, bisogna ritornare però al senso profondo di questo, che non è rialzare e fare battaglie ideologiche. Anche perché il fenomeno migratorio rimane coi volti, con le storie dentro, come fenomeno non di emergenza ma strutturale. Appunto, però questo le voglio chiedere, cioè tornando alla frase, alle parole di Monsignor Galantino, segretario della CEI, giusto definire piazzisti politici che si occupano in quel modo di immigrazione, oppure i politici hanno anche il diritto, il dovere di andare dietro alle opinioni di chi oggi si sente minacciato dall'immigrazione? Questa è la domanda. I politici hanno il tempo non di andare dietro, ma di ricostruire situazioni, di dare risposta e quindi di non seguire la paura, che pure è seria, ma in questo senso va affrontata con proposte, non va affrontata con slogan, con contrapposizioni che poi non risolvono il problema, perché il flusso delle persone c'è comunque strutturalmente, quindi bisogna dare delle risposte partendo dalla realtà. Abbiamo detto tutto, guardi, per esempio la programmazione dei flussi e altro, noi continuiamo a chiamare profughi persone che accogliamo che poi vogliono andare via. Ci sono grandi ritardi complessivamente, quindi il coraggio di inserire una dimensione umana forte, culturalmente capace, credo che sia importante. Poi tocca alla politica dare delle risposte, che però devono partire evidentemente da alcuni presupposti culturali. Chi dice respingiamoli, chiudiamoli, dice una cosa che sa che è senza senso, che non si potrà mai attuare. La cultura non umana, perché non è un problema cristiano, prima è l'essere dentro umanamente, non si può rifiutare. Quando vedi mamme con bambini e altro, non è buonismo questo. No, però è chiaro il punto di vista morale della Chiesa, altro poi è anche il suo, che però certo, fa anche un lavoro pratico di cui adesso parleremo. Altro poi è il dovere della politica di gestire questi fenomeni con degli deve strumenti. Gestirli. Ne infatti parliamo credo tra che... un attimo, però, perché devo dare il traffico. Se può restare ancora qualche minuto con noi, sì. Torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Migrations, migrations, onde migratorie, millions de vidas, milioni di storie. Abuelos and mothers and fathers and sisters and brothers, one world, one soul, rock and roll, raíces y acciaio, armi e malattie, un river di storie e di geografie. Viajando e ballando, soffriendo e vivendo, amando e luciando, andando e venendo. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo in compagnia di Don Virginio Colmegna della Fondazione Casa della Carità. Qualcuno ha calcolato, diciamo sempre rimandando la palla nel campo della Chiesa, che ci sono 30.000 o non so quante parrocchie in Italia, che accogliendone 3 o 4 per ogni parrocchia si risolverebbe il problema. È un modo di vedere le cose? È già così dal suo punto di vista, no, che fa accoglienza, o è una forzatura? Tanti comuni in Italia che se dessero una disponibilità diffusa e non di chiusura risolveremmo il problema, ma certamente queste sono frasi ancora di slogan, perché poi i problemi sono più complessi e articolati. Ci sono profughi che chiedono, richiedenti asilo che sono qui, che chiedono di rimanere, altri che devono andare. La situazione è proprio articolata. Quello che sta succedendo è una grande confusione in termini di interventi legati all'emergenza sostanzialmente, mentre ci sono interventi a lungo andare su quale la politica ha già fatto delle risposte anche positive. Oggi in un'intervista il prefetto Morcone per esempio dice delle cose giuste, cioè ci sono delle imprese sociali che dovranno essere verificate, cattoliche o non cattoliche, sul tema della trasparenza, degli appalti, della regolarità, e non si può consegnare a loro il problema dell'emergenza, per cui se c'è un'ospitalità di 100 diventa di 300 alle stesse condizioni di prima. E allora abbiamo bisogno obiettivamente di cogliere che dietro questo fenomeno strutturale però ci sta un modo che fa profezia, presenza, umiltà, accoglienza, ricreare un clima di società civile che avverte che questo problema ci interpella tutti in termini anche di coscienza personale, di coscienza individuale, perché altrimenti nascono delle risposte che poi fanno capolino dalla paura della gente alla preoccupazione, perché certamente è un fenomeno che si può dire piccolo rispetto a quello che succede in Giordania, negli altri campi, sì, ma comunque è un fenomeno che abbiamo importante. Visto 100.000 persone che arrivano, certamente intervengono, il Sud sta dando una grande prova, però di fatto la comunità cristiana deve dare un senso di testimonianza, affidando poi le risposte strutturali ad altri, il senso di testimonianza e di rimettere in gioco poi la nostra disponibilità di cultura, di ospitalità, famiglie che ospitano, rimetterci insieme. Toccherà a noi, come tocca anche ai comuni, stiamo pensando anche a alcune risposte che abbiamo chiamate reti di carità, che in tutto il territorio delle famiglie si aprono, finito un percorso, all'ospitalità di queste persone. Credo che sia importante far intravedere che è un fenomeno strutturale che dovrebbe arricchire la qualità nostra di vivere sociale e non creare paure. Questa è una grande sfida, credo che siamo in un cambiamento epocale, anche perché le guerre sono diffuse, continue, e certi fenomeni migratori non si interrompono con gli urli e con i proclami. Allora, oggi Corriere ricordava l'oratorio di Bruzzano, la comunità con 250 immigrati ospitati in 20 giorni, la sua esperienza della Casa della Carità. Voi che, cioè, ecco, intanto come funziona? Ma questa, guardi, è un'esperienza di carattere simbolico, significativo, che fa parte a quel discorso di società civile. Noi come realtà, come tante altre realtà, abbiamo degli impegni strutturati, organizzati, in convenzione. Questa realtà è segnata dalla gratuità, cioè la parrocchia d'estate è vuota, gli spazi che vengono spesi per i ragazzi e altro. Abbiamo detto a luglio e agosto mettiamo insieme questa ospitalità, mettiamo a disposizione gli spazi che ci sono con la parrocchia che c'è stata, con le parrocchie del territorio, mettiamo dentro gli elementi nostri gratuitamente di professionalità, mediatori culturali, medici e altro, e diamo una disponibilità segnata dalla gratuità per condividere un'ospitalità in questi due mesi temporanea, segnata evidentemente dal fatto di vivere, di accogliere, di rimettere in gioco la comunità. Il dato straordinario, avevamo anche un po' di paura delle reazioni, invece è stata che ci sono immensi volontari che hanno rinunciato alle ferie, che ci sono, che stanno dando una disponibilità di fronte a un fenomeno evidentemente di invii con l'analisi complessa che dicevamo anche prima. È nato un territorio, una parrocchia, ma non solo. Pensi che a Ferragosto, che il 15 faremo anche con la realtà nostra di Casa Carità, con gli anziani che condividiamo anche noi, faremo una giornata insieme con loro, diventa un fatto che fa intravedere che si può abbassare la paura, guardare in faccia le persone e ricostruire un tessuto di società civile. Ecco, ma qual è il modello d'accoglienza che ha in mente lei, per esempio? Perché io so che alla Casa della Carità avete un modello d'accoglienza che relativamente anche alle esperienze con i Rom, dove ci sono dei paletti, si cerca sempre di contattare l'accoglienza. Abbiamo... No? Per esempio, adesso le cito un caso, a Belluno i migranti che fanno i lavori socialmente utili, perché il sindaco si è speso per fare quella cosa là. Cioè lei per un modello d'accoglienza dove in cambio gli accolti devono dare qualcosa o certo, no? Certo, bisogna, e quando dico che la politica deve permettere questo, nel senso di lavorare altro, perché nessuna accoglienza, io in Casa della Carità abbiamo accoglienza anche di tutte le situazioni, perché si vive italiani, stranieri, donne, rom, uomini, ma il tema delle regole diventa importante, dobbiamo abbattere l'idea che chi vive di solidarietà o chi promuove solidarietà è un buonista, uno che non tiene le regole. E soprattutto va valorizzata la loro capacità, perché il rischio dell'assistenzialismo è forte, non è che accogliamo gli immigrati poverini, i profughi poi vogliono andare via in altri paesi, va bene, ma quelli che rimangono hanno bisogno di un investimento che produca inserimento lavorativo, interventi sociali, contrattazione, perché altrimenti diventano delle persone anonime sulle quali scatta evidentemente l'abbandono, la tristezza e poi tutti i problemi sociali, quindi diventa un peso per la società invece che essere una risorsa. Quindi questo è il tema dei lavori socialmente utili, del far sì che attraverso attendano per un anno e mezzo, due anni, questo Monsignor Galantino l'ha detto con chiarezza, sfidando poi la politica a questo livello, non in termini sul loro terreno, ma attenzione che se li teniamo qui per due anni non potendoli farlo lavorare per dare un documento di riconoscimento o di rifiuto, ci si mette due anni, un anno e quattro alla burocrazia. Noi dopo abbiamo una massa di persone che chiamiamo immigrati con il loro volto, con la loro storia, che però non riescono a dare questo apporto, non si riesce con loro a contrattare. Quindi non è vero che noi siamo delle persone, noi, cioè le persone che si impegnano, che rifiutano il tema delle regole, a tal punto chiedono questo, e l'Europa non ci sta dando un grande esempio, perché tutta questa programmazione dei flussi, per esempio, per andare a tutti, poi noi accogliamo delle persone che sappiamo già che stanno andando, che stanno cercando di andare via con un flusso continuo. Certo, di andare sempre altrove. Sotto gli occhi di tutti c'è che è un fenomeno evidentemente, tra virgolette, ha il crisma della irregolarità. Però se dovessi dire una cosa che secondo lei il governo ha sbagliato nella gestione del fenomeno dell'immigrazione, in questo abbiamo visto torpedoni, autobus di immigrati andare nelle periferie dove poi si è scoperto c'erano già mille altri problemi, abbiamo visto prefetti che cercavano all'ultimo minuto scuole, caserme, dell'improvvisazione credo si possa dire si è vista. Lei cosa direbbe che l'errore più grosso che è stato fatto? Di ragionare proprio abbassando tutte le paure, facendo regole, distinguendo le situazioni che ci sono all'entrata, perché qui i flussi vengono qualche volta accolti così senza misura, chi sono, come sono. Io credo che si abbia il coraggio di rivedere, perché non è un problema di questo governo, anche prima, cioè la legge sull'immigrazione sta producendo continuamente irregolarità perché è centrata tutta sul lavoro, se il lavoro non c'è, distinguere i profughi che arrivano in emergenza, che vogliono andare da... I tempi d'attesa nei CIE sono troppo lunghi, per esempio. È un dibattito politico-culturale che invece non riesce a entrare. La situazione è complessa, non ci vogliono slogan, per favore. Abbassiamo gli slogan, affrontiamo i problemi così come sono. Ma in Italia c'è razzismo, secondo lei? No, non c'è razzismo. Ci sono certamente tendenze di individuare i capri espiatori, perché la paura è reale e la gente evidentemente vive una situazione di sofferenza. Tra l'altro la nostra esperienza è che appunto perché accogliamo gli italiani, gli anziani e così via, accogliamo anche gli immigrati, quindi non è una categoria di divisione delle situazioni, un altro mantra che viene in giro quasi dicendo che noi seguiamo soltanto uno o gli altri. E in fondo l'esperienza di Bruzzano nella sua gratuità simbolica e testimoniale era per dire: guardate, ci stiamo investendo, vogliamo dare un segnale che si può, un segnale che rompa la paura delle persone e si trovino anche i risultati, si valorizzano anche le esperienze positive. Noi mettiamo in gioco la risorsa famiglia, la risorsa ospitalità, che sto sperimentando, che il nostro paese è pieno di queste tradizioni di territori. Sto venendo dalla terra di Sardegna, ho visto cosa significa i legami di solidarietà tra la gente e la cultura dell'ospitalità anche in quanto tale. Ecco, a proposito però di risorse, c'è un ascoltatore, l'ultima domanda che le faccio, Diego, che all'SMS 342-38-6666 ci chiede di specificare le risorse, gli investimenti, chi vi dà le risorse per fare esperienze come quella, per esempio, dell'oratorio di Bruzzano o la Casa della Carità. Le risorse, il comune, il nostro paese, il governo sta evidentemente facendo con un piano serio, il piano dello STRAR, che si dice con termine tecnico, di convenzioni e altro. Questa esperienza è voluta gratuitamente, c'è stata la realtà che Milano Ristorazione mette i pasti a disposizione, poi c'è la solidarietà delle persone, trasformata evidentemente anche in risorse economiche, perché poi quelle persone sono lì a dargli da mangiare, curarli, mettere insieme operatori rispetto a questo. È un'esperienza simbolica che credo però debba mettere in moto la possibilità che l'incrocio tra la parola volontariato, che è volontariato di cittadinanza, di cultura, di appartenenza, e insieme responsabilità politica, che deve tradurre anche in gestione, e che la gestione sia verificata, non sia travolta dall'emergenza, non sia affidata al privato ma diventi gestione pubblica fortemente, che non vuol dire non collaborante. Credo che questo sforzo ci sia. Ecco, la sofferenza in questo periodo è che, facendo grandi dibattiti, si misconosce invece il nostro paese ha un sistema di accoglienza, di risposte. Il prefetto Morcone l'ha detto oggi, che è quello del Ministero degli Interni, che ha programmato anche tutto. Non bisogna farla travolgere dal tema dell'emergenza profughi che arrivano, che no, alcuni fanno domanda di richiedenti asilo, altri no. Allora va riletto il fenomeno nella sua articolazione. Ecco, se c'è un messaggio da dare, valutando davvero che la dinamica nostra è di figli di un'umanità che si scuote rispetto a questo, di chiedere però di abbassare i toni e di lavorare concretamente, perché comunque questo problema è fatto di volti, di storie, di persone, di mamme anche di bambini, di umanità che ritorna anche noi per essere attrezzati a vivere questa trasformazione epocale. Grazie Don Colmegna, buona serata. Grazie a voi. Arrivederci. 800 24 00 24. Avete sentito la versione di Don Colmegna, un uomo di chiesa, un uomo anche pragmatico, perché con la Casa della Carità a Milano fanno continuamente progetti di aiuto, di integrazione. L'avete sentito anche nei modi in cui, dal punto di vista del finanziamento, ci ha voluto raccontare. Io aggiungo solo questo: credo che i problemi si creino nel momento in cui non si riesce a dimostrare efficienza nella gestione del fenomeno dell'immigrazione. Quindi non è soltanto la Lega che soffia sul fuoco, ma è anche il governo che contribuisce a non risolvere questi problemi. 800 24 00 24. Se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, tema di alleggerimento, anche se il sottofondo in realtà è un coro di critiche fortissime per un caso di presunta raccomandazione. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, scelta per condurre su Sky il programma quotidiano di X Factor, il Daily, ed è subito polemica, soprattutto sui social network, dove, sapete, l'invidia regna sovrana, ma insomma l'accusa è figlia doppia di raccomandati, cioè raccomandata doppia perché figlia sia di Eros che di Michelle Hunziker. Eros Ramazzotti l'ha difesa, ha detto è brava, vedrete, chi lo sa, e poi ha detto noi ci siamo fatti un mazzo così, io e Michelle, sicuramente sì, loro, Aurora per ora non si sa che gavetta abbia fatto, però siccome Aurora, che è stata scelta da Sky, Aurora Ramazzotti, dice Sky perché è giovane, ha 18 anni e in base a dei provini, a dei provini, e perché è brava sui social network, abbiamo scoperto che ha 350.000 follower su Instagram, uno dei social network più diffusi al momento, quello delle foto. Vogliamo chiedere a voi, perché followate Aurora Ramazzotti? Quali qualità nascoste si celano in cotanta ragazza? Aurora, 800 24 00 24. Incominciamo intanto con gli interventi e andiamo con Anna che chiama da Napoli. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. Prego Anna. Io ho chiamato per dare un'impressione che ho avuto io, cioè ho trovato delle assonanze tra Grillo e il ministro dell'economia greco Vanakouris. Questi due personaggi. Sì, perché anche lui ha fatto, c'ha esperienze televisive alle spalle. Sì. Esperienze televisive alle spalle. No, questo non credo, però hanno una villa, hanno belle mogli, hanno una certa serenità economica. Sì. E parlare così con di fatti che non si sono mai provati, loro non si sono mai avvicinati alle difficoltà vere, e parlare con leggerezza, avere le idee confuse, dove porta? Io non ho capito, per esempio, Grillo nell'ultimo intervento, nell'intervista che ha dato alla 7, non ho capito nulla delle sue idee. Protesta, però poi alla fine. Grillo a Grillo, lo conosciamo tutti da anni. Non ho capito il paragone col ministro dell'economia, ma ero confuso perché lui, pensavo che si riferisse a un viceministro greco, venuto fuori qualche tempo fa, che aveva un passato da attore di comico in TV. Pensavo fosse lui. Invece no. Va bene. No, io mi riferisco al ministro dell'economia, che anche lui non ha esperienze, sì, mi pare, come Grillo, però mi sembra un mamma santissimo, insomma, non mi pare che poi l'Europa abbia accolto con favore le sue proposte, anzi non ne hanno capito niente, un po' come accade con Grillo. Ma lei dice Varoufakis però? Di chi parla? Io non parla dell'ex ministro Varoufakis. Sì, il bello. Del governo di lei, non c'è più da, tra l'altro, è stato messo da parte. Sì. Ho capito, Anna, grazie. Lei ha fatto un paragone tra Grillo e Varoufakis, due che parlano, che fanno una bella vita, parlano bene, praticano male e concludono poco. Questa è la sintesi di Anna. Per Varoufakis ci può stare, per Grillo giudicate voi. È comunque il leader di un partito che ha il 25% avuto alle ultime elezioni, e poi il resto sono tutte le chiacchiere che conosciamo benissimo di Beppe Grillo. Paolo da Torino, buonasera. Sì, buonasera, volevo intervenire. Sì. È premesso che probabilmente il miglioranno del razzista non mi interessa. Io ho sentito il Don. Allora io dico questo, primo, il Don e tutti i Don di tutta Italia, Chiesa compreso il signor Bagnasco che ha 500 metri di casa a Roma, se li prendano a casa loro, noi non li vogliamo. Gli italiani hanno detto chiaramente tantissimo che non li vogliono. Qui in Torino, io sono di Torino, la città è un disastro, come penso tutte le città d'Italia. Allora, sì. Quindi, no, va benissimo, però non lo dica a Don Virgilio Colmegna, no, perché lui è l'unico, cioè lo dica, no, lui, ma scusi, lo può dire al Papa, lo può dire ai Monsignori, lo può dire ai prelati, lo può dire a tutti i vescovi di questo mondo, lo può dire ai preti che tengono le chiese chiuse. Noi abbiamo chiamato Don Colmegna proprio perché è uno che invece le fa queste cose, è un prete di strada, è l'unico a cui non lo può dire, ha capito? Certo, ma io ho sentito lui, ma le ripeto che qua a Torino, qui a Torino ci sono dei corsi di sera, come in tutte le città italiane, dove ci sono dei chiamiamoli dei neri, alti 2 metri, che sono a 10-15 alla volta, dove spacciano, dove tu non ti puoi avvicinare, dove la polizia non può andare da sola, dove ormai comandano loro. Allora qui si tratta di un'invasione, una guerra che sta succedendo, che succederà, perché succederà qualcosa. Scusi, però questo di chi è colpa? Di Don Colmegna? No, del Vaticano? Oppure è colpa della polizia che non controlla le strade, no, la sera? Ma guardi, la polizia eccetera. Non può controllare, non ce la fa più. Scusi, ma un tempo gli spacciatori erano quelli del sud, no? Non erano immigrati. Allora? Ci sono delle zone dove gli arabi la fanno da padrona. Sì. La fanno da padrona. Allora, un mese fa qui a Torino i vigili sono intervenuti per arrestare un marocchino. Sì. Questo marocchino ha fatto resistenza, lo hanno ammanettato, era pieno di sangue, sputava addosso ai vigili e gridando Allah Akbar, perché l'hanno sentito tutti, io l'ho anche filmato, in 5 minuti sono usciti in 50, 10 vigili contro 50 marocchini che continuavano ad arrivare. E un carabiniere l'altro giorno mi diceva che in certe zone a Torino, ma penso anche in tutta Italia, le zone sono perse. Abbiamo perso il controllo del territorio. Sì. No, ma è... Perché mi scusi, continua a dire, sì. il Don ha detto, vengono e scappano poverini dalla guerra. A lei mi vuole spiegare un nero alto 2 metri, invece di stare nella sua terra a combattere, viene qua? Ma stia nella sua terra a combattere se è alto 2 metri. Cioè, se c'è una guerra, io combatto per la mia nazione. Sì, no, Paolo, ma lei legittimamente può pensare anche questo. In parte può avere anche ragione sul fatto di restare lì a combattere le guerre, perché no? Perché scappano tutti, ma a parte che lo sappiamo bene che non scappano tutti, perché vengono qua, e siccome quelli che vengono nuovi vengono arruolati da quelli vecchi, e allora c'è un cambio, no? Quelli vecchi camminano col telefonino e col BMW o con la macchina, perché ormai qua le macchine di neri a 4 di sì, macchine ho quattro... capito, però no. Scusi Paolo, lei non ha capito una cosa, che l'intervista a Don Colmegna era fatta per parlare con una persona che i problemi cerca di risolverli, non di crearli, perché è uno che se li prende a casa sua, l'ha capito? Questo è il punto che secondo me deve capire. Ormai il problema è diventato che la gente non può camminare per le strade. Va bene, ma questo è legittimo che lei lo pensi e lo dica, però non mi critichi l'intervista a Don Colmegna, perché stiamo parlando con l'unica persona che, ripeto, i problemi cerca di risolverli, non di crearli, ha capito? I governanti che fanno i buonisti camminano con le scorte, stanno nelle vie. Va bene Paolo, loro grazie, buona serata, grazie, buona serata. Abbiamo capito tutto perfettamente sui governanti. Il tema è l'intervista al prete, a Don Colmegna, che entra nel merito di questa questione qua. Io vorrei dei commenti su questo, non sul fatto dei politici che non fanno un tubo, eccetera. Cioè, questo era vero ieri, era vero ieri l'altro e sarà vero anche dopodomani, purtroppo, temo. Marina da Roma. Allora, buonasera. Buonasera. Senta, io in genere non chiamo mai per fare Non chiama mai, anche questa volta non chiamerà perché è andata giù la linea forse, Marina. Ci riproviamo. Luigi da Firenze, buonasera. Buonasera, senta, io vorrei cambiare invece argomento. Sì. Io sono nativo calabrese, vivo a Firenze, però sono a 40 chilometri nativo di Cilo Marina da Rossana, da quello che è successo. Sono veramente indignato per la comunicazione dei TG eccetera che c'è stata. Perché? Perché quando succede a Genova, che praticamente succede l'alluvione, giustamente non bisogna sempre classificare le cose, allora se ne parla subito, si dà come eminenza la notizia. Quando si parla del sud, a differenza della Sicilia, che lì sono voti, della Calabria stamattina io non ho sentito una parola. Solitamente sono uno che guarda le prime alle notizie, Rai 1, Canale 5, eccetera. Sa di che cosa hanno parlato? Sì. Hanno parlato della svalutazione della Cina. Quindi Io ho visto le immagini di Rossano, macchine ammassate, gente, 5.000 persone senza nulla. Il sindaco, che era disperato di Rossano, cosa mi parlano di prima notizia? A me non mi pare che sia così. A me no, io ho visto dei telegiornali dove se ne parlava parecchio, però può darsi che non abbiamo visto gli stessi telegiornali. Lei che TV guarda? Ma senta, io ho visto uno mattina stamattina. Ecco, prima io notizia, guardo Sky. Quindi lei guarda Sky, ma non tutti in Calabria hanno Sky. Sì, e sì. Quindi quando si paga il canone, certo. Quando si paga il canone, la prima notizia. Poi cosa va a fare il ministro Galletti? Che praticamente dice mai più condoni, ma che si svegliano adesso, hanno costruito. Quindi io sono, cioè io mi rivolgo ai calabresi, ai siciliani e cercherò praticamente di muovermi anche me, di indignarsi, di scendere in piazza, perché è veramente uno schifo che la Calabria non venga presa in considerazione. Guardi, resti con noi, resti in nostra compagnia, perché tra poco sentiremo il capo della protezione civile invece, che è Curcio, che farà un punto anche sulla situazione in Calabria. Vede, noi posso l'abbiamo... fare una domanda? Sì, anche due. Cioè, gliela può rivolgere mi dica, lei al mi dica, capo? Sì. Perché non sbatte in faccia i problemi al signor Renzi? Perché il signor Renzi non è andato subito in Calabria, ha mandato il ministro Galletti? Lui è sempre a Courmayeur, eccetera. Perché quando c'è la gente disperata, ma lo sa che praticamente hanno levato le strade, cioè, hanno levato, mi scusi, il treno, i famosi treni per andare in Calabria? Mia sorella è scesa in Calabria, se passava alle 8:05 rimaneva bloccata sulla 106. Io allora ho capito, però scusi, ma glielo chiedo perché non c'è andato Renzi, però sinceramente lei pensa che se Renzi fosse andato in Calabria sarebbe cambiato qualcosa? Quando c'è un discorso di elezioni, il nostro premier si catapulta in no, ma mi risponda a questo, se parola, Renzi fosse andato in Calabria sarebbe cambiato qualcosa? Ma non è un problema di Renzi, non è un problema di tutta la politica. Va bene, siccome è lei che ha detto Renzi, quindi ha capito. Grazie, comunque buona serata, resti con noi, tra poco il capo della protezione civile, Gianluigi da Pescara, buonasera. Buonasera a lei, buonasera e grazie per aver preso la mia telefonata. Io molto rapidamente volevo fare un commento sulla polemica, tra virgolette, che riguarda la figlia di Eros Ramazzotti e Michel Hunt. Sì. Allora, dal mio punto di vista mi sembra abbastanza sterile parlare di raccomandazioni nel mondo dello spettacolo. Lei dice la norma è così. E la norma è così, ma se andiamo a vedere come ha mosso i primi passi, non so... Simone Ventura, per chi ha la mia età... Era raccomandata anche lei? Ci si ricorda molto bene... Era figlia di qualcuno, Simone Ventura? No, però, mi permetta, volevo soltanto fare questa precisazione. Se guardiamo, ecco, anche Radio 24, c'è, se non sbaglio, un eccellentano che lavora ottimamente, egregiamente. La mia non è una critica, Voglio dire semplicemente che se sono molto stupiti, lavora col suo compagno che fa l'allevatore, esatto, che do di cani e parlano di cani, ma non voglio dire, non è una polemica, tutt'altro. Sono personaggi che, essendo già appartenendo già ad un mondo al mondo dello spettacolo, è quasi gioco forza che abbiano parecchi follower. Uno si chiama Ramazzotti, ma infatti guardi, Gianluigi, è legittimo pensarla come la pensa lei, non c'è mica. Io infatti sono partito di se Aurora Ramazzotti ha 350.000 follower, prima di domandarci perché fa il daily di Sky, domandiamoci come ha fatto ad avere tutti questi follower. Bastava il cognome, oppure lei fa qualcosa di particolare, oppure fa qualcosa di particolare, brava, no, magari, certo, che ne so, io non lo so. La mia valutazione, essendomi anche occupato di social network per le questioni di lavoro e professionali, è chiaro che ci sono due componenti molto importanti. La prima è sicuramente il cognome. Se domani Justin Bieber scrive "mi piace la cioccolata", probabilmente avrà 1 milione di "mi piace" sul suo sito. Se la figlia di Obama scrive qualcos'altro sul suo sito, è chiaro che avrà molti più follower di quanti possiamo averne io e lei. Mi perdoni adesso mi perdoni la battuta. Ecco, quindi questo è un elemento. L'altro elemento è che appartenendo, essendo già figlia di due personaggi famosi ed importanti, è quasi gioco forza che possa avere questo vantaggio, questo trampolino mediatico. E se andiamo a vedere poi quello che è accaduto anche in passato... Ma il punto che bisognerà giudicare prima o poi è se è brava a fare quello che fa oppure brava, no. Chiaramente... Onore al merito, ecco. Grazie, buona serata, traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. La Con noi il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, buonasera. Buonasera. Allora, intanto le voglio girare l'intervento che poco fa un ascoltatore ha fatto in diretta al telefono, dicendo, lamentando insomma il fatto che il Presidente del Consiglio non è venuto in Calabria, il fatto che se ne sia parlato poco anche nei telegiornali delle TV pubbliche. Allora, questo chiaramente non è opera sua o demerito suo, ma è vero c'è stata un po' di disattenzione su quello accaduto in Calabria da parte delle autorità o no? Non mi sembra proprio, adesso chiaramente non so la telefonata, non mi sembra proprio. Intanto il Presidente del Consiglio è stato sempre informato, come è stato anche ribadito dalle varie testate, e ha preso informazioni sugli eventi. Oggi è stato presente sul posto un Ministro della Repubblica, che è il Ministro dell'Ambiente, accompagnato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Le autorità sono tutte sul posto, perché il Prefetto lo abbiamo contattato sin dai primi momenti, si è recato immediatamente sul posto insieme al Presidente della Regione. Adesso sinceramente sulla presenza del Presidente... No, ma io poi qualcuno mi dovrebbe dimostrare che la presenza di Renzi avrebbe cambiato le cose. Che poi se ci va, dice, è andato per fare uno spot elettorale, se non ci va dicono ma perché non è andato? Io ovviamente può comprendere, non parlo della presenza del Presidente del Consiglio, che decide in piena autonomia quelle che sono le sue presenze sul posto. Io da parte mia posso assicurare che ha seguito con grande attenzione sia tramite il Dipartimento ma sia tramite tutte le interlocuzioni che lui ha avuto direttamente. Quindi io credo che al di là della presenza o meno, c'è da dire l'attenzione poi si fa con gli atti, come abbiamo dimostrato già in altre occasioni, e quindi in questo senso focalizzerei questa attenzione. Sì. Senta, lei è anche un tecnico della materia, perché conosce questa materia, un ingegnere. È stato un evento molto forte, una pioggia si è concentrata in poche ore, non so quanta pioggia da qualche parte ho sentito, tutta quella che cade in un anno, metà di quella che cade in un anno. Guardi, allora, per renderle un'idea, stiamo parlando di circa 230 mm nelle 24 ore e parliamo di circa 100 mm in 3 ore. Sono temporali molto forti, molto intensi, che cadono in una porzione di territorio concentrato. Però io direi che questi eventi sono, come dire, il risultato di una serie di fattori, perché se noi ne vediamo uno solo probabilmente abbiamo una visione distorta. Primo, gli eventi si intensificano, sono importanti, le intensità sono elevate, è certamente un punto. Secondo, la vulnerabilità del territorio, stiamo parlando di zone con un'urbanizzazione che è molto vicina e prossima ai corsi d'acqua, che spesso sono tombati in prossimità della foce, che spesso hanno degli argini non completamente adeguati a quelle che devono essere le portate in queste occasioni, quindi una vulnerabilità del territorio, e questo è un altro punto sul quale noi dobbiamo assolutamente fare una riflessione. Cioè la parte infrastrutturale oggi risente di una mancata adeguamento nel tempo e di una mancata manutenzione. Allora, questi tre elementi rendono, e quindi l'azione dell'uomo in particolare, rendono l'evento catastrofico. Oggi abbiamo una fortuna, non contiamo vittime, e guardate che questo non è scontato, perché l'evento è stato un evento concentrato e importante, però siamo destinati a rivedere, a rimandare gli appuntamenti, perché questi tre parametri, questi tre elementi non sono facilmente modificabili. Però mi dica una cosa, la mancata manutenzione è figlia anche lei dell'impossibilità dei comuni di spendere, del patto di stabilità, del fatto che i comuni hanno dovuto tirare remi in barca sotto tanti punti di vista? C'è anche questo sicuramente, come c'è probabilmente una difficoltà nel momento in cui si rimette mano a tutto il sistema nella struttura delle competenze, quindi c'è su questo aspetto. Però perché non si riesce per una buona volta a mettere fuori da tutti i vincoli di bilancio i costi costi che i comuni, gli investimenti, anche perché sarebbe lavoro, occupazione, no? Dovessero spendere per risistemare una volta per tutti gli argini dei fiumi, i letti dei fiumi, tutto quello che c'è da fare. Perché per una volta non si dice chiaramente di fare questa cosa? Guardi, questo lo ha detto oggi il ministro, non è certo competenza mia, perché è una, come dire, è un'attività molto di alto livello politico, strategico. Su questo si sta facendo un lavoro importante a livello governativo, anche di semplificazione. È chiaro che queste cose non sono cose che si sviluppano in un giorno o nell'arco di settimane, cioè qua stiamo trattando di argomenti che hanno subito negli anni, nei decenni, una certa, un certo percorso, anche irrigidito da alcune norme che probabilmente si dovranno rivedere, e modificare questo percorso non è una cosa da fare, non è una cosa che si riesce a fare in poco tempo. Quindi anche il percorso di semplificazione che si sta mettendo in piedi ha necessità, come dire, dei suoi tempi di attuazione. Per questo io spingo molto, e qua ritorno un po' più nel mio alveo, scusi il gioco di parole, nella parte di protezione civile, perché il sistema di protezione civile, che oggi non è un sistema collegato agli aspetti infrastrutturali, ha il compito di gestire, programmare e pianificare l'emergenza con lo stato dell'arte quale è. Quindi se ci sono situazioni di costruzioni negli alvei, di alvei poco manutenuti, di foci che in qualche modo hanno dei problemi nel portare l'acqua nel mare, noi dobbiamo stimolare le autorità locali a fare una pianificazione a tutela del cittadino, ora come stanno le cose. Poi arriveranno la parte infrastrutturale, la parte normativa su quale sì, si sta sì. lavorando. No, ma lei ha tutte le ragioni del mondo, però il problema è che se lei dice sono cose che non si cambiano in un giorno, però al contrario io potrei dire che se continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, raccoglieremo sempre i soliti terribili frutti. A proposito di un'altra questione, quella dei condoni, ha detto Galletti di nuovo basta condoni, sarà l'abbiamo sentito dire un milione di volte, sarà la volta buona? Io da tecnico me lo auguro, poi ovviamente qua mi fermo, mi sembra che la politica oggi stia sposando questa linea, credo che il paese non abbia bisogno di condoni, però questa, come dire, è una mia posizione personale. Lei condivide però la posizione di Galletti sul fatto dei condoni? Assolutamente, assolutamente. Allora però io le domando, se invece dovesse arrivare un altro condono tra un anno o tra sei mesi, lei cosa farebbe? Cioè che tipo di conseguenza tirerebbe da questo? Guardi, protesterebbe? Io, come dire, tracerebbe le vesti. Io come dire, ho chiamiamolo il piccolo vantaggio di essere un tecnico, cioè io mi devo adeguare a quelle che sono le norme che la politica nella sua alta organizzazione fornisce a noi tecnici da attuare. Non credo che questa sia la direzione, perché il governo, ma oggi stesso, diciamo, nella figura del ministro che è la massima espressione, lo ha ribadito. Se stiamo facendo un'ipotesi del tutto generale, sarebbe uno spunto in più ancora per noi per spingere sulla pianificazione. Cioè l'unico modo di gestire le situazioni pregresse che comportano un rischio per il cittadino è consapevolezza di quel rischio. Quindi se tu cittadino abiti vicino a una fiumara che è comunque una situazione magari condonata nel passato, devi averne consapevolezza, devi andare dal tuo sindaco ad aiutarlo a fare un piano di protezione civile che ti consenta di gestire l'emergenza nella maniera più serena possibile. Tutto vero, io dico semplicemente che dal mio punto di vista un ministro, ma anche un capo di una protezione civile, chiunque abbia degli incarichi, dica, si esponga su basta condoni, qualora poi dovesse invece arrivare un altro condono come ce ne sono stati decine in passato, io credo che a quel punto dovrebbe trarne le conseguenze e fare qualcosa, tipo dimettersi per esempio, altrimenti continuiamo a dirlo e poi anche se non si fanno cambiare. Non mi sembra che diciamo oggi si stia parlando di condoni, quindi no, per ora in questo senso appunto. Grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Il capo della protezione civile Curcio, e questa è la situazione in Calabria, avete sentito. Velocemente con un ascoltatore per chiudere, Mario da Verona. Pronto? Pronto Mario, tocca a lei, prego. Sì, pronto, buonasera. Sì. Prego. Pronto? Mi sente? Sì, la sentiamo Mario, lei sente noi? Sì, benissimo. E allora può parlare, vada. Sì, niente, io mi riferivo ancora, entrando nel merito, quel che aveva detto il reverendo, che ha questa comunità di dell'assistenza agli stranieri. Allora io dico, però lui era entrato nel merito dicendo ma tocca ai comuni, non alle parrocchie e quant'altro. Allora io dico, il Vangelo si rivolge ai cristiani, alle comunità cristiane, non si rivolge né ai comuni né agli stati. Quindi se lui e altre persone vogliono fare questa attività di assistenza, benissimo, facciano pure, però non è che si può dire ma il comune deve fare, cioè il comune fa se i suoi amministratori lo decidono e lo Stato dovrebbe fare se i suoi ministri lo decidono, non è che lo decide il reverendo. Va bene Mario, se lei vuol dire che Chiesa e Stato sono distinti, devono esserlo, siamo d'accordo con lei. Giornale Radio, ci risentiamo tra poco. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo. La domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. Every gambler knows that to lose is what you're really there for. Someone else feels this. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. Lo sviluppo dell'Italia negli ultimi 60 anni è stato uno sviluppo sempre e soltanto di speculazione, quindi si è costruito per rubare, si è fatta speculazione edilizia. Dovunque tu hai la sensazione che la spesa pubblica sia stata fatta rubando senza dare le garanzie di sicurezza ai cittadini. Vogliamo cominciare a dire, e qui guardi, non c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di fare bene i piani urbanistici nelle città. Facciamo piani urbanistici a volumi zero in tutta Italia. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, 18 20 e 30 800 24 00 24. Nell'ordine avete sentito Sgarbi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Poco fa anche l'intervista al capo della protezione civile Curcio sulla situazione in Calabria. Oggi il ministro Galletti ha detto danni, disastri ambientali causati dall'uomo, mai più condoni edilizi. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Speriamo mai più condoni edilizi, tutti lo dicono, nessuno che lo faccia. 800 24 00 24, però sentiamo anche qualche cosa in materia di immigrazione, perché insomma si continua a discutere dopo le bordate tirate da Salvini sul Vaticano. Il Vaticano le ha rispedite al mittente e ha tirato in ballo anche il governo, lo sapete, dicendo quasi assente nella gestione del fenomeno immigrazione. In effetti, sentiamo allora che sentiamo il direttore di Radio Padani e poi Sgarbi. Perché non usare inizialmente per esempio anche l'esercito? Perché questa oramai è un'emergenza cronica di questa di questo paese che colpisce tante aree del paese. La Chiesa non si pone il problema dei corpi ma delle anime. Allora se tu lasci morire delle persone in acqua, se tu non dai il loro soccorso, manca il principio cristiano dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Sono due mondi diversi, ma entrambi con delle ragioni. E c'ha ragione Sgarbi, la Chiesa si occupa delle anime, è un punto di vista morale che uno può seguire o non seguire a seconda della propria, diciamo, credo. Però quello è, ma quasi anche il grido della Lega e il basta immigrati, chiudiamo, anche quello però è una cosa che gli puoi credere o non gli puoi credere, è una questione quasi di fede, perché copre che cosa? Un vuoto politico. Anche la Lega quando è stata al governo, non mi dite che quando c'era la Lega al governo non arrivavano gli immigrati. Il vuoto è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti, di una gestione anche oggi, torpedoni di immigrati che vengono portati nelle periferie, prefetti che all'ultimo minuto cercano caserme e scuole vuote dove mettere gli immigrati. Ne abbiamo parlato in apertura con Don Colmegna. Io l'ho detto, uno che a suo modo, nel suo piccolo, il problema cerca di risolverlo, perché di immigrati ne ospita, perché di accoglienza ne fa. Dopodiché, se volete parlare dell'IMU sulla Chiesa che deve pagare, se volete parlare dei vescovi del Vaticano, parliamo anche di quello se volete. 800 24 00 24. C'è anche Corrado Passera che, sapete, lancia una lista per correre alle elezioni a Milano, che ci saranno l'anno prossimo in primavera. A Milano ci sarà la dimostrazione che da una parte la Macedonia, insomma, il grande mondo che si sta un po' così litigando al suo interno del Partito Democratico, dall'altra parte ci sarà una grande lista civica, una rete di liste civiche che prenderà il meglio da tante parti, che si riunirà intorno a un grande programma per Milano. Mettere direttamente la Chiesa dentro il calderone politico come fa Salvini e dire voi siete uno come gli altri, e in particolare in questo frangente voi siete dentro quella cosa lì perché è business, è veramente, ha toccato il fondo, diciamo così, della versione peggiore della laicizzazione della politica. Autore e conduttore di un programma cult su Rai 3, usa un linguaggio parecchio innovativo, ridendo e scherzando realizza anche dei bei reportage, dando dei punti a molti giornalisti, reportage che in questa stagione hanno lasciato il segno anche in tema di immigrati. Adesso credo che sia in vacanza. Buonasera a Zoro, Diego Bianchi. Buonasera a voi. Buonasera. Sei in ferie ma non sei in vacanza perché sei a Roma. Guarda, no. In questo momento esatto sono dalle parti di Marina di Camerota. Ieri ero a Roma, giro un po', però diciamo formalmente sì, sono in vacanza. Che bello, non sei andato in Grecia anche tu? Perché quest'anno vanno di moda le vacanze. Sono andato anche io in Grecia, vedi, hai preso. Sono stato un 5-6 giorni in Grecia per la prima volta, non per lavoro. Sono stato a Naxos, sì, che è un'isola. E devo dire che in Grecia ci sono stato 4 volte negli ultimi 5 mesi. Sempre per lavoro. Era per lavoro, questa volta ci sono andato in vacanza, anche se poi essendoci andato sempre per lavoro, pure quando stai in vacanza c'è l'occhio rapace che guarda intorno e cerca di storie. Sì. Tra l'altro quella lì della coppia siriana è una storia che hai raccontato molto bella. Partiva dalla Grecia, arrivava in Germania, adesso ne parliamo. Sentiamo la musica però, perché mi ha detto Paolo Corleoni, il nostro regista, che ti sarebbe piaciuta. Sister Nancy. Questo mi piace molto. È un po' anche un marchio di fabbrica di Gazebo, no? Anche le scelte musicali. Bravo, questo è un pezzone, questo è molto bello. Tra l'altro, insomma, hai avuto anche Bobo Rondelli, l'abbiamo avuto anche noi qualche sera fa, quindi vedi, abbiamo una cosa in comune. Sì, Bobo Rondelli è venuto più volte, ma insomma, quest'anno è venuto Marcus Miller, Morris, anche gli Spandau, è venuto un po' di tutto, Giovanotti, roba comunque. Roba grossa. Beh sì, vario tipo, di Bridgewater, tutto un sacco di... ne dimentico qualcuno, ma insomma ne sono uno di tanti. Senti, hai sentito anche dalla vacanza un po' la polemica che è salita alle stelle, no? Il Vaticano che attacca la Lega. Il Vaticano. Stavo sentendo anche questi vostri audio. Sì. Mi avete fatto sentire due volte Sgarbi, una volta il direttore di Radio Padania. Cioè stavi per andartene. No, non capivo se era uno scherzo, se era una cosa... Ho seguito. Per aizzarti un po', Sì, no, ma figurati, purtroppo ci si abitua a tutto, quindi ci si abitua anche a Salvini contro il Papa, quindi a queste cose qui. Che effetto ti fa Salvini contro il Papa? Ti parla uno che non ha fatto neanche la comunione, quindi non ho particolari, cioè per carità, massimo rispetto ovviamente per l'autorità, ma riesco a essere abbastanza laico, dopodiché mi fa impressione che... E, diciamo, la destra, che tradizionalmente anche in altri ambiti e per altri argomenti ovviamente abbraccia sempre la religione o la fede per spiegare tante sue decisioni, in questo caso sì, addirittura per portare avanti le sue battaglie, spesso la sua propaganda, non esita anche ad attaccare il Papa nel momento in cui dice cose normali. Ora, prima sentivo chi era Sgarbi che diceva che la Chiesa si occupa delle anime e non dei corpi. Qui però non ha tutti i torti, cioè nel senso... Sì, no, ma vuol dire, lo capisco anche io, al di là della distinzione fra anime e corpi, che uno che sta in mare lo devi tirare su, al di là del fatto che tu sia cattolico o meno, dovrebbe capirlo pure Salvini, ecco. Senti, ma poi, da, sì, scusa. No, figurati, anzi, ti volevo chiedere questo, da uomo di sinistra, il Vaticano, questo forse si può dire, il Vaticano quando parla di aborto, per esempio, no? Si dice fa invasione di campo, adesso che parla di immigrati e di accoglienza va ascoltato, non è che anche qui ci sono, come dire, fa un po' sorridere questo o no? Ma sai, non è che al di là della sinistra o della destra, l'aborto ormai rientra nella sfera dei diritti delle persone, delle umane e delle leggi di uno Stato, per cui se ci sono delle leggi che il Vaticano, che in teoria il Vaticano non è che il Vaticano è deputato a parlare dell'Italia, il Vaticano è un altro Stato, no? Quindi il Vaticano potrebbe parlare di qualsiasi Stato, spesso però la sua sfera di influenza, stando a Roma, ricasca sulla politica italiana, e non è un caso che in materia di diritti ci troviamo con i paesi più arretrati, basta guardare, che ne so, i matrimoni gay, anche la cattolicissima Irlanda, per usare questi riferimenti sinistra-destra, ci ha superato a sinistra, eppure là hanno preso i voti dei cattolici, di quelli di destra. Ecco, in questi temi l'Italia solitamente è arretrata, quindi se parli di aborto, e uno dice facci decidere a noi Stato, in questo caso si parla di vite umane, non si parla neanche di Italia, si parla di Europa, sì. È un po' diverso, se mi dirai anche l'aborto si parla di vite umane, il discorso è un po' diverso, però si tratta di parlare anche del diritto della donna, faccio un po' fatica a mettere insieme i due argomenti, no, però... è semplicemente perché il comune denominatore è l'intervento appunto del Vaticano, che a volte viene considerato un'intrusione, a volte secondo me strumentalmente, anche a seconda di se dice qualche cosa che ti piace o che non ti piace, questo anche può succedere. Senti, però tornando invece sulla vicenda, un po' sul modo in cui hai raccontato con un linguaggio, con questi reportage, ma anche poi in studio commentando durante Gazebo queste stagioni, tra l'altro come sono andate le prime serate con cui hai chiuso poi la stagione? Da che punto di vista? È cambiato passare dalla nicchia, forse dalla seconda serata con meno occhi addosso, a andare in prima serata? Assolutamente sì, per noi è cambiato tanto tutto. Per cui la durata, il numero di occhi addosso, se vuoi, l'aspettativa, un po' di pressione sul nostro modo di lavorare, o perlomeno sui contenuti da proporre, non è cambiato nulla. Avete cercato di non farvi travolgere? Noi assolutamente no, abbiamo cercato di rimanere noi stessi, e questo a scapito, se vuoi, di ascolti, di share, di questi discorsi qua che sono comunque importanti e fanno dibattito, però una cosa ci si è riconosciuta, nel bene o nel male, che siamo rimasti noi stessi. Per cui per noi, noi siamo convinti di aver fatto 5 prime serate abbastanza d'avanguardia per essere per aver proposto quella roba in prima serata. Io spero di rivederle presto, e questo lo dico da spettatore, insomma. Ti ringrazio. Diciamo, il prossimo anno rientriamo nella nostra collocazione abituale, con la possibilità comunque di sparare ancora dei colpi in prima serata. Di sforare ogni tanto, che è quella posizione comoda, stai nella tua posizione, poi appena ti capita la possibilità ti puoi avere anche più visibilità. Senti, la storia di questa coppia di siriani sbarcati in Grecia, che tu hai raccontato, poi sono andati in Germania, era il momento in cui si parlava molto del derby tra Grecia e Germania, adesso se ne parla meno, ma il tema era la storia di questi immigrati, come si gestisce tutta questa cosa, ti ha insegnato questa storia? Beh, quell'incontro lì in particolare è stato diverso da tanti altri incontri che ho fatto in Sicilia, in giro per l'Italia con immigrati, perché era una storia uguale alle altre, perché erano sempre persone che scappavano dalla guerra, dalla povertà e da una crisi oggettiva, però in quel caso erano persone più vicine a noi, più simili a noi di tante altre, nel senso che lui faceva il chirurgo, lei la dentista, e quindi non pensi all'Africa dove muoiono di fame, una situazione che dice vabbè tanto noi così non ci staremo mai, no, persone benestanti con una professione che all'improvviso si ritrovano nel mezzo di un conflitto, di una guerra, e scappano con un progetto, tra l'altro, perché loro sono scappati, se non sbaglio, 2 anni fa erano scappati, ora non potrei sbagliare, comunque hanno fatto un viaggio, sono passati dalla Giordania alla Turchia. Ognuno di questi passaggi ha preso dei mesi, ha preso del tempo. Poi, tramite i trafficanti, su un gommone, perché la differenza delle rotte Grecia-Turchia rispetto alle nostre, che sono molto brevi rispetto alle nostre, rispetto a quella, diciamo, Libia-Sicilia o Tunisia-Sicilia, per capirci, è che sono molto più corte e molto più sicure. In Grecia arrivano vivi, per lo più. In Italia no. In Italia il rischio è sicuramente maggiore. E quindi incontrarli e farmi raccontare la loro storia già in Grecia, nell'isola di Chios, dove l'ho incontrati, fu molto interessante. Poi lì la detenzione loro, l'identificazione durava 24-36 ore, poi a seconda del paese di provenienza avevano diritto ad uno status di, non di rifugiato, insomma, potevano rimanere nel paese per 6 mesi, durante i quali decidere cosa fare. I siriani potevano per 6 mesi, gli altri meno. Loro in quei 6 mesi sono stati 1 mese ad Atene, poi con mezzi poco ortodossi sono riusciti comunque ad andare in Germania, che era il loro progetto iniziale, tant'è che loro già da 1 anno e mezzo, 2 anni avevano cominciato a studiare tedesco. Sì. In Germania, perché avevano eletto la Germania come posto migliore per continuare la loro vita siriana, nel senso professionale, quindi lui vuole continuare i suoi studi da chirurgo, le sue specializzazioni, e una volta in Germania mettersi al servizio della Germania, ovviamente con l'obiettivo un giorno di tornare in Siria. Ora, io l'ultima volta poi li ho lasciati ad Amburgo, che è dove li avevo ritrovati, in questo centro d'accoglienza molto funzionale, dove c'erano dentro centinaia di persone provenienti un po' da tutte queste zone di cui sentiamo parlare, e da dove scappa la gente, e dovevano aspettare 2 mesi, 2 mesi e mezzo per avere la risposta definitiva dalla Germania circa la loro richiesta d'asilo. Più o meno dovrebbe essere in questo periodo. Io un po' che non li sento, li cercherò, anche perché non so bene, aspetto più notizie da loro che cercherò. Adesso potrebbe essere una delle prossime puntate di Gazebo, perché comunque adesso diciamo hai tenuto lì col fiato sospeso, dobbiamo sapere come va a finire. Diego, se puoi rimanere ancora un paio di minuti con noi, perché abbiamo la borsa, informazioni dei mercati finanziari, Radio 24 ovviamente. Ci ha raggiunto anche Carlo Gabardini, ciao Carlo. Ci sei? Ciao. Collegamento ciao telefonico. Tutti, ciao, ciao Carlo, ciao. Tra poco Carrambata, ciao. Dopo la borsa. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio in compagnia di Diego Bianchi, Zoro, conduttore di Gazebo. Lo ritroveremo quando? Da partire da settembre o un po' più avanti? Dal 27 settembre. Presenti. Di domenica e giovedì questa. Domenica e giovedì, ecco, vedi. Non vediamo l'ora, possiamo dirlo che non vediamo l'ora. Io sono un appassionato totale proprio di Gazebo. Sì, grazie, sì. Carlo. Grazie. Siamo stesi così a pelle di leopardo. Ecco, vedi. Senti, ci stavi raccontando, così per chiosare questa storia della coppia siriana, no? Che poi andava in Germania. Tu a un certo punto hai detto, perché questo ci fa capire nel bene e nel male quanto la Germania resti, anche se se ne può parlare male a proposito della vicenda Grecia, come è stata gestita, eccetera, eccetera, paese guida d'Europa per come gestisce, per esempio, il fenomeno dei richiedenti diritto asilo, dell'immigrazione all'interno dei suoi confini, confronto con quello che succede in Italia. Guarda, non ho una graduatoria, sono sincero. Devo dire che quello che ho visto lì, relativamente alla loro esperienza, funzionava, era notevole. C'erano persone che venivano accolte, venivano gestite, molti bambini, c'era la scuola di tedesco, avevano 3 pasti al giorno, avevano qualcuno anche una diaria, e nessuno pensava di cominciare a fare discussioni sul fatto che prendessero 35 euro al giorno o che andassero in un hotel a 5 stelle. Erano dei grandi container dove di fatto queste persone non fanno nulla, e non fare nulla, capisco che a raccontarla così uno dice ecco, non è gente che non vuole fare nulla, questa è gente che vuole lavorare, però per le loro vicende di vita è costretta a passare attraverso diversi limbi, diciamo così. E questo è uno ovviamente dei più gradevoli, perché è un limbo dove comunque non rischi di morire. Altre di queste situazioni, tipo in Libia, puoi finire in carcere per 3 mesi, come nelle condizioni che abbiamo visto in tanti servizi, in tanti reportage. Sì. Bisogna dire anche che parecchi di loro non è che vogliono andare in Germania, semplicemente vogliono andare in Svezia, in Danimarca, in situazione in Inghilterra, anche nonostante l'Inghilterra non sia particolarmente accogliente in questo periodo soprattutto, perché spesso cercano di raggiungere, ora non era il caso della coppia in questione, parenti, amici, familiari che a distanza a volte per esempio finanziano il loro viaggio, loro mandano i soldi, no? Io ho incontrato dei ragazzi del Sudan per esempio alla stazione Tiburtina, quando c'è stato tutto il periodo dell'accampamento alla stazione Tiburtina, che aspettavano i soldi da parenti in Svezia e dovevano raggiungere cose complicatissime. Però chi si mette in viaggio per un viaggio del genere? Consideriamo che queste persone, soprattutto gli africani, anche i siriani, ma soprattutto gli africani, sono una specie di supereroi, perché noi li vediamo alla fine del loro viaggio, all'ultimo quadro del videogioco, diciamo così. È bella l'immagine, non è male. Sì, però è così, perché questa gente che è partita magari dal Senegal, dal Mali, e basta prendere una cartina, ha passato mille fasi, mille momenti. È passato il viaggio in mare. Io mi sono fatto raccontare, il viaggio in mare è meno pericoloso, per esempio, del viaggio nel deserto. Il viaggio nel deserto noi non lo vediamo mai, nessuno, è difficile anche parlarne. Perché non è l'ultimo quadro, ma è il quart'ultimo forse. È difficile documentarlo anche, mettiamolo così, ma è quello dove muore il maggior numero di persone spesso, per mille motivi. Quindi quando ci si approccia a questo tipo di problemi con queste persone, magari anche avere un po' presente il quadro generale della situazione potrebbe aiutare. Ma molto giusto, e ricordiamo anche che la maggior parte delle volte non fare niente è anche una grandissima rottura di scatole. Cioè i primi due mesi, esatto. Ma essere in una condizione in cui non puoi fare niente perché sei un rifugiato e quindi manco lavorare puoi, non è bello, e lo sappiamo tutti. Senti, ricordo male o avete raccontato anche il momento in cui a Roma sono scoppiati parecchie proteste per quei migranti che venivano trasportati, non mi ricordo più in quale quartiere. Dunque, a Roma ci sono stati diversi momenti in cui quest'anno. E c'è stato il momento in cui, ricorderete, tutti i media italiani hanno scoperto l'esistenza di Tor Sapienza. Sì. Quello è stato un momento. Sì, è un quartiere di cui non frega niente a nessuno da decenni, da anni, e che ovviamente ha tanti problemi. Però a un certo punto, in una serie di situazioni, un centro che già stava lì, preesisteva, non è che l'hanno messo in quel momento, nulla di nuovo, è stato oggetto di alcune tensioni. E con una cospicua presenza, era il periodo in cui Borghezio si batteva tutte le borgate di Roma, che pure questa è una presenza abbastanza. Però la domanda infatti che ti volevo fare è questa, Zoro, cioè se avendolo diciamo raccontato anche un po' da cronista a modo vostro, se la gente pensi sia esasperata veramente o se invece c'era una strumentalizzazione, è stato detto, di gruppi politici di estrema destra che andavano lì solo diciamo, per raccogliere consensi. Le due cose tendo a dire che non si escludono. In alcuni casi l'esasperazione è vera. Tor Sapienza è un quartiere come parecchie periferie di Roma con dei problemi. Ricorderete anche che c'è stato un altro periodo in cui il mondo ha scoperto Cor Colle, che è un altro posto dimenticatissimo, che formalmente è Roma, dove ci sono dei problemi, che qua non ci sono ospedali come? Per i bambini, per esempio, non ci sono posti dove portare i bambini, cioè sono posti come. Era quello che mi riferivo io, sì, forse che l'ultima cosa. Esistono alla presenza degli immigrati, lì la criminalità c'è sempre stata da prima che arrivassero gli immigrati, basta parlare con le persone del luogo. Ovviamente su un tessuto del genere molta strumentalizzazione politica negli ultimi periodi è stata fatta, fino alla situazione di questi ultimi un po' di settimane fa a Casale San Nicola, mi sembra, che è una specie di quartiere residenziale un po' diverso da Tor Sapienza o Cor Colle, dove lì dove avete visto gli scontri tra polizia e Casa Pound, di fatto, se ricordate, dove quello che stava succedendo, poi io lì non ci sono stato perché non stavo lavorando, ma basta leggere, vedere, conoscere un po' e vedere anche le persone, le facce, perché si riconoscono certe persone, appunto sono militanti di estrema destra, abbastanza noti ormai a Roma, e non sono cittadini del posto che stavano lì a manifestare. Era arrivato un pullman con 19 persone, che se arrivano in uno stabilimento balneare neanche ce ne accorgiamo di 19 persone, ok? È arrivato un pullman con 19 persone che andava in una scuola, l'ex Socrate, che è preposta a questo tipo di attività, qualcuno l'ha deciso il prefetto, scuola che stava a 3 km dal centro abitato. Ora, tutto ciò come possa impattare sulla vita di un quartiere residenziale è abbastanza curioso da sapere, no? Perlomeno è difficile che susciti una reazione di quel tipo. E però è stato quello che qualcuno abbia questo tipo di reazione, come se è chiaro. Senti, hai non so se eri in vacanza, se hai staccato o se hai seguito questa, la lettera di Staino a Cooperlo. Tu hai seguendo, infatti appassionante. Molto, molto appassionante. No, perché c'era quel tuo il personaggio in cui forse hai esordito, adesso non è che conosco tutta la tua biografia, però era il militante del PD schizofrenico, no? Tra tradizione e modernismo. Cosa direbbe oggi a proposito di questa situazione? Tolleranza Zorro. Sì, io là, non era un personaggio con cui avevo sordito, era all'inizio, io mi ritrovavo sperduto fra delle posizioni da elettore di sinistra, parliamo del 2008, di quando è nato il PD, e quella roba funzionava perché quei dubbi erano notevoli allora, nel momento in cui c'era una guida che veniva dalla storia del Partito Comunista. In questo momento il disorientamento, ecco, diciamo così, della militanza a sinistra è di altra natura, perché ti ritrovi a governare però con una guida che non c'entra nulla con la tua storia, che è quella di Renzi, quindi questo disorienta moltissimi e seguo il dibattito, devo dire che lo seguo un po' da spettatore, non riesco più di tanto ad appassionarti. Ormai sarà un po' l'età, ma più che la passione c'è proprio la malinconia. Invidio per esempio Staino, che sicuramente che è più anziano di me, che ha tutta che ha queste sicurezze, per lo tra l'altro sono tutte e due ancora più anziani di me, anche Cooperlo, che è stato, quando io ero giovanissimo, lui era il mio segretario all'epoca. Sì. Perché Staino ha detto, insomma, nessuno ne vuole più sapere niente di voi e della minoranza. È stato molto, abbastanza duro, insomma. Sì, devo dire, con dei toni abbastanza strani. Reali, se posso dire, nel paese, perché io non penso così tanto che la minoranza sia solamente una questione di quattro persone. In realtà è la richiesta di avere cose di sinistra, per dirla molto bassa. Va anche detto che Staino gli ha detto a Cooperlo: vai in mezzo alla gente, il povero Cooperlo, poi poverino, vai in mezzo alla gente, vai sull'autobus e dire, come ha detto, la sinistra Dem, io sono della sinistra Dem, e vedrai le reazioni. Immaginiamoci la diranno, e tutti ti diranno: se avete rotto i coglioni, nessuno vi sta presso. Dopodiché bisogna anche fare la controprova, andare su un autobus e dire: io sono renziano. Esatto. E vedere come va a finire. E vedere la reazione, perché pure là io non lo so come esce fuori. Già io mi sto immaginando la puntata di Gazebo costruita così, ci può stare. Il video di Cooperlo che sale sulla 96 e dice: io sono della minoranza Dem, è straordinario. Te l'ho detto. Ma lui ha risposto, è stato anche carino, insomma, è stato anche spiritoso Cooperlo nella risposta. Però sei anche un po' incazzato, a dire la verità. Comunque. Sì, ma guarda, ma io penso anche abbia fatto abbastanza bene, perché poi gli ha detto: non sei nessuno, non te devi dire nessuno, hai stufato tutti, poi tutta sta cattiveria. Però devo dire che è una cosa che ho sentito dire anch'io in giro. Non da poche persone. Sto difendendo, non voglio difendere la sinistra Dem, sto pensando a Cooperlo, perché avendolo conosciuto mi viene proprio in mente la persona, capito? Sì. Non riesco a... Uno dice: sai, voi da Lema, Bertani, ok, va bene, riesco a farlo. Il povero Cooperlo è proprio... Cioè l'ultimo arrivato, in fondo, anche in questa lista di personaggi politici. Ma è quello più facile da bastonare, capito? Esatto. Ci vuole proprio una cattiveria particolare. Senti, noi potremmo andare avanti qua anche fino a domani, però intanto, prima o poi il programma finisce. So che tu devi andare a cena, hai gente che ti aspetta, quindi io ti abbraccio. Cose normali, però te le lasciamo fare. A presto, grazie. A presto, grazie a voi. Ciao Diego, ciao. Ciao. Carlo, intanto ci hai rimediato un invito a Gazebo. Esatto. Grazie a Si può fare. E grazie ai potenti mezzi Radio 24, purtroppo non sono riuscito a sentire la prima parte dell'intervista, quindi avevo paurissima, non sapevo come. Ma era il tuo telefono, cosa c'entra i potenti mezzi di Radio 24? Tu che hai un telefono antiquato, scarso, cos'hai? Un telefono a gettone? Non rilascio dichiarazioni. Cosa abbiamo? La pausa, ragazzi? No, allora abbiamo qualche ascoltatore, facciamo un paio di ascoltatori, poi abbiamo un altro bello ospite. Luigi D'Ancona, buonasera. Pronto? Luigi, buonasera, prego. Buonasera, anzitutto vorrei salutare Paolo, che è un mio concittadino. Ciao Paolo, e sto parlando del registro, ovviamente. Ah, fantastico, Paolo Corleone, come no? Eravamo rimasti un attimo così. Vi conoscete anche? Lo saluto. Però lui è di Senigallia, Paolo Corleone, ci ha tenuto a specificare. Anch'io sono di Senigallia, anch'io. Quindi Paolo ti conosce. Però fa segno per dire che non ti conosce. No, Gigio, lui mi conosce benissimo. Vabbè, un amico di Paolo Corleone, fantastico, giocavate a calcetto insieme. No, abbiamo iniziato a fare radio insieme. Ma detto questo, chiudiamo questa cosa che voleva essere solo un saluto. Sì. La cosa che volevo dire riguardava il discorso di Aurora. Sì. Allora, è indubbio che l'Italia, essendo un luogo dove vive la relazione, abbiamo capitalismo e abbiamo avuto e abbiamo tuttora capitalismo di relazione, politica di relazione, è normale che ci sia anche un po' di comportamenti artistici legati alla relazione, quindi alle conoscenze. Il problema, secondo me, è che la ragazza può rischiare molto, quindi io starei ben attenta, perché potrebbe fare la fine di quei figli d'arte che ricordiamo a Sanremo che non hanno fatto bella figura. Per cui, secondo me, è un'abile mossa da parte di coloro che fanno gli autori di una trasmissione per richiamare ulteriore attenzione. Per farsi un po' di pubblicità, possibile, ecco, anche se Sky ecco. queste cose non le fa in genere, però possibile. Comunque, potrebbe e lei potrebbe tranquillamente questo. Bruciarsi. Potrebbe. No, lei potrebbe, deve stare attenta, poi magari se è davvero brava, i genitori sono esperti e la vedono davvero brava, sì. Complimenti, perché abbiamo scoperto un nuovo talento. Beh, non lo so, però è vero che se non dico se qualcuno vuole bene ad Aurora Ramazzotti, perché sicuramente i suoi genitori le vorranno bene, però forse volendole bene un consiglio poteva essere quello di non iniziare aspettare. Subito così, perché se inizi con questa stigma, diciamo, con questa cosa addosso, non è, certo. non è bello, eh? Luigi, è grazie. Sì, volevi ti concludere. Volevo fare una domanda, posso? Sì, sì, sì. Certo. Era in relazione al discorso delle dichiarazioni del segretario generale della CEI. Sì, Galantino. La domanda è, ecco, io la domanda è, ma a che titolo fa questo tipo di appunto al governo? Perché questo che io non riesco a capire, essendo un po' ignorante, no? E poco informato, a che titolo fa questo tipo? Cioè, lo fa come rappresentante della CEI, ma cittadino italiano, lo fa come rappresentante del Vaticano, a che titolo? Non lo so. Perché non riesco a capire, non riesco a capire. Ma lo può fare a qualunque titolo, lo può fare a qualunque titolo. Che domanda ma che è? C'entra, ma che c'entra in uno stato laico quello che dice lui? Questa è la mia domanda. C'entra se tu segui la Chiesa, lo ascolti, basta, se no non c'entra. È un punto di vista, è un punto di vista non direttamente politico, è chiaro. Un'invasione di campo, insomma, va bene. Volendo anche un'invasione di campo, volendo sì. Allora, no, però aspetta, devi salutarci tutti a Radio Arancia, eh? Questa è la richiesta. Come no? Li saluto tutti, li saluto tutti. Assolutamente, grazie. Ci teniamo. È la richiesta ciao. Di Paolo Corleoni, perfetto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Andiamo con chi andiamo? Giorgio che ci chiama da Modena. Buonasera Giorgio. Sono Riccardi, visto che siamo in Serie A dico che sono Riccardi. Bravo, specifichiamo. Sia ben chiaro perché noi cartigiani adesso ci siamo al 100%. Allora, io innanzitutto faccio politica, sono in Forza Italia. Sì. E sono anche cattolico, quindi diciamo quasi un caso patologico. E viste le considerazioni che vengono espresse anche da conduttori lanciatissimi su Rai 3, ma io in quel gazebo non vorrei neanche prendere un caffè. Perché? Perché è troppo tendenzioso. Cioè, qui ragazzi, qui si fa del moralismo, sì. Si considera Cooperlo una sorta di martire. Quando ma no, ma lascia perdere Cooperlo, era una domanda così stupida. Quando nel movimento giovanile della DC con Renzo Lusetti e Cooperlo era il segretario della Federazione dei Giovani Comunisti. Mamma mia, che momenti, Lusetti e Cooperlo, momenti bassissimi. Cooperlo era il capo dei Giovani Comunisti, lo dico io. Sì. Cooperlo a Cuba, secondo me gli davano del fascista. Allora, è chiaro che Matteo Renzi, che sta facendo delle proposte al paese assolutamente liberali, sì. In controtendenza rispetto al comunismo di Cooperlo, prima o poi spacca, ma non ci sono dubbi. Però mi scusi, è abbastanza semplice, lei è di Forza Italia e quindi sta dicendo le proposte di Renzi sono ottime, qualcuno che magari è un pochino più... No, io non ho detto che sono ottime, ho detto secondo che sono me... liberali, aspetti. Appunto, ottime, sono liberali. Lo facciamo dire al Parlamento se le vota. Va benissimo. Lei dice che sono liberali, parliamo. Ci può stare che ci sia una parte democratica di sinistra che non è tanto d'accordo con queste idee che secondo lei sono straordinariamente... E allora perché lo spaccano? Lo spaccano perché vogliono la cadrega, vogliono la poltroncina. Insomma, questo è possibile. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo con Giorgio. Allora bisogna che incominciamo a veri liberali non ha mai spaccato nessuno. E incominciamo a parlare di Roma mafia capitale. E cominciamo a dire che il centrodestra ha commesso tanti errori, ma il centrodestra può dare una risposta all'Italia liberale e farla rinascere e ripartire. Però attenzione, perché su Roma, attenzione Giorgio, attenzione Giorgio, perché su Roma c'è Alemanno che è indagato per associazione mafiosa. Ma non ci perdere Alemanno. No, perché lei ha detto, lei ha citato Roma, lei ha citato Roma. Sto dicendo che sono di Modena, anzi di Carpi. No, ma lei ha citato Roma, lei ha citato Mafia Capitale, no? A Roma, a Modena, a Bologna e anche ad Ancona. Sì, sì. Dei gran moralisti che ci fanno la morale, la fanno anche a Papa Francesco, quindi che stiano zitti, sì, che stiano zitti, perché l'accoglienza è una cosa, il salvare le persone è una cosa, il pagare i quattrini per le coprosse è un'altra cosa, ok? La nostra posizione non è una posizione pro o contro la Chiesa, la nostra posizione è capire il motivo per il quale dobbiamo tirare fuori tutti questi soldi senza rimandare a casa questa gente che non ha assolutamente il diritto di rimanere nel suolo nazionale se non ha un posto di lavoro, tutto qua. Però scusi, la Chiesa l'ascolta. I rifugiati hanno il diritto di rimanere. Ma poi mi scusi, ma queste ricette liberali le abbiamo provate negli ultimi 20 anni perché c'è stata la destra, eppure non hanno funzionato benissimo. Ma scusi, ma la destra, noi avevamo sti partitini che ci rompevano le balle tutti i giorni. Ma i partitini cosa sono fatti Italia? Non abbiamo mai potuto governare come si doveva. Adesso abbiamo trovato uno che parla come noi dall'altra parte. Vediamo se riesce a spaccare e vediamo se in modo responsabile e soprattutto razionale si può andare avanti in Parlamento. Se lui invece si fa fottere dai suoi di sinistra, finita la canzone, torniamo noi. Va bene, grazie Giorgio. Buona serata, grazie. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu. Adesso entriamo in un'altra vicenda, in un'altra questione, perché stiamo parlando di una delle novità che ci sono negli ultimi tempi nel campo della mobilità, in particolare nelle grandi città, Milano, Roma. Non è Uber, non è il sistema di taxi che ha fatto infuriare i tassisti, ma è car sharing, però finito a Milano nell'occhio del ciclone per una questione di tariffe e di periferie. È con noi Gianni Martino, amministratore delegato di Car2Go Italia. Buonasera ascoltatori. Eccoci qua. Buonasera. Allora, in quante città siete presenti intanto come car sharing? Noi siamo presenti in 4 città italiane. Il servizio è stato lanciato a Torino dopo Milano, Roma e Firenze nello scorso mese di aprile e in altre 27 città del mondo tra Stati Uniti, Canada ed Europa. Stiamo per aprire in Cina. Perché siete Car2Go è un gruppo, è una multinazionale, cos'è, tedesca? Car2Go fa parte del gruppo Daimler, Mercedes-Benz. E come funziona, per chi non lo conosce, questo sistema? È una formula di car sharing definita a flusso libero, oppure one way, che prevede, è molto semplice, il cliente trova la macchina in qualsiasi punto della città attraverso il suo smartphone o semplicemente camminando. Sì. La apre sempre con il telefono, dentro ci sono le chiavi, digita il suo codice sul navigatore e parte e può terminare il suo noleggio dopo pochissimi minuti una volta giunto a destinazione. Quindi è un noleggio di sola andata praticamente. Sì, che sta andando bene perché i numeri sono in crescita, almeno a Milano da quanto tempo siete presenti? 2 anni forse? Siamo presenti da qualche giorno, più di 2 anni, siamo partiti il 9 agosto del 2013, abbiamo circa 80.000 clienti e consideri che facciamo una media di 25.000 noleggi a settimana. Qualcuno dice, attenzione perché il car sharing è un incentivo all'utilizzo dell'auto, alcuni ambientalisti più affezionati all'idea che la macchina sia semplicemente il passato, altri invece giustamente sottolineano, io sono tra quelli, che avere il car sharing vuol dire poter anche non acquistare un'auto e utilizzare però l'auto per spostarsi tranquillamente in città. Adesso però c'è la questione delle periferie, perché che è successo? Invece di alzare, siccome avete il problema delle auto che vengono riportate fuori, troppo fuori, e quindi questa cosa vi costava troppo, no? Che succedeva? Che dovevate mandare gli autisti di notte a riportarle in centro e quindi avete aumentato i costi per chi lascia l'auto in periferia, cioè per i poveracci della periferia. Apriti cielo. Sì, guardi, lei ha parlato prima di un uragano. Questo, quello che è successo negli ultimi giorni è una sorta di uragano dentro un bicchiere d'acqua. E il car sharing a flusso libero è un sistema che si regola da solo, nel senso che sono i clienti che gestiscono direttamente le nostre macchine. E questo fa sì che i costi per il cliente appunto siano estremamente bassi, contenuti, si paga soltanto al minuto per quanto si guida e il costo include la benzina, il parcheggio, tutto quanto. Succede che a causa di un'imposizione particolare che ha dato il Comune di Milano, che è ha obbligato gli operatori a operare sull'intero territorio cittadino anziché definire una area operativa secondo le loro esigenze, le loro statistiche. Però questo fa parte della concessione del servizio, cioè il Comune di Milano questo vi chiede di... della concessione soltanto a Milano, perché nessuna di tutte le altre città del mondo è stato posto un obbligo. Cioè solo a Milano c'è questo obbligo di servire solo tutto. Solo a Milano su 31 città, neanche le 4 città, le 3 città italiane che hanno seguito. Quindi in realtà ha delle zone servite e delle zone non servite, giusto? Esattamente. Cioè, dove non si può parcheggiare la macchina, esattamente, può mollare. Esatto. Questo dipende da un'analisi dei flussi di mobilità all'interno della città e della domanda che poi via via si va generando nella città. Succede che a Milano la gran parte delle macchine che vanno non in periferia, perché non si tratta di periferia, ma che vanno proprio ai margini della città, non rientrano in circolo, vanno via la sera, normalmente non rientrano in circolo l'indomani. Questo ci obbliga a ricollocare una grande quantità di macchine, ma oltre un certo limite il sistema collassa, proprio perché si deve autoregolare, come ho detto prima. Quindi è stato introdotto un disincentivo per chi parcheggia le macchine nella parte più estrema della città. Non stiamo parlando di periferie, perché questo FIE è stato introdotto per zone che vanno ben oltre la linea della 90-93. Chi conosce Milano sa che siamo già molto, ma molto in periferia. È stato introdotto altresì un incentivo per chi invece le porta verso le zone più interne della città, ma stiamo sempre parlando della stragrande parte della città. E però quanto deve pagare in più chi parcheggia in quell'area? 4,90 euro. Chi invece porta la macchina all'interno può accedere a un incentivo che può superare i 5 euro, quindi in buona sostanza il saldo è negativo. Quello che noi vogliamo è che i nostri clienti il saldo è poi, però, fuori quanto le riportino dentro. Mi scusi, è un po' con la questione del pollo, però, no? Cioè il famoso pollo di Trilussa, perché il saldo, lei dice, non è negativo, però non sono gli stessi a pagare, cioè quelli, i poracci delle periferie, è quello che è stato detto, no? Devono pagare di più, quelli clienti magari già che stanno in centro e probabilmente sono anche più facoltosi, e potrebbero ricchi, anche prendere un taxi e pagheranno di meno. Questa è la critica che è stata fatta. Ma guardi, nelle periferie di Milano c'è la ricchissima San Siro, e nelle zone semicentrali assolutamente servite dal nostro servizio c'è la poverissima Quarto Giaro e altri quartieri, per cui non è un ragionamento. Beh, Quarto Giaro non è che siamo al centro di Milano, però Se no non ci capiamo. Sì, ma il Quarto Giaro è comunque dentro il nostro, dentro la nostra. Sì, ma lui dice Quarto Giaro è dentro. Dentro. Noi stiamo parlando di zone che si chiamano Ronchetto delle Rane, che si chiamano Baiano Valle, che si chiamano, dove oltretutto le nostre macchine molto spesso vengono, sono soggette anche a danneggiamenti seri, costanti, reiterati, sui quali si sono spesi fiumi di inchiostro anche sui giornali. Quindi noi abbiamo rivendicato la nostra libertà tariffaria in questo modo, applicando, come ho detto prima, un disincentivo che è inferiore all'incentivo che il nostro cliente può sperare di avere nel momento in cui riporta una macchina in città. Ma mi scusi, non si tratta di periferie, si tratta di aree veramente al di fuori, proprio nella fascia più estrema della città. Se le macchine si accumulano lì e non rientrano in città, noi diamo un disservizio pesantissimo a chi invece ne ha bisogno all'interno della città. Consideri che dentro la cerchia della 90, 8 giorni fa a Milano alle 6:30 di pomeriggio c'erano 4 macchine e le restanti 796 erano in alcuni di questi nomi che le ho fatto. Quindi però scusi, lei giustamente sta dicendo che questo è un problema, quindi è quasi ben più di un disincentivo, perché loro, se anche vi danno i 4,90 euro ma tutti li parcheggiano fuori, lei stesso sta dicendo che il sistema sarebbe al collasso. Quindi, certamente, è un, diciamo che è un disincentivo al parcheggio fuori. Certo, se, se devi dicendo, pagare di voi, più, è ovvio che è un disincentivo. Voi con i 4,90 euro poi organizzerete delle persone che le macchine le riporteranno in centro, no, no, o comunque ci sarà il problema che le macchine non ci saranno? Noi già lo facciamo, ma lo possiamo fare entro certi limiti. Consideri che riportare una macchina, spostare una macchina non costa 4,90 euro, ne costa 15. Immagino. Mediamente, quindi non è questo. Si tratta soltanto di introdurre un meccanismo che consenta al sistema di regolarsi meglio. Quindi un piccolo disincentivo. Però senta, Martino, adesso meno macchine andranno fuori e la domanda di chi invece è dentro sarà meglio soddisfatta, perché noi è da 2 anni che sentiamo i nostri clienti lamentarsi che non trovano abbastanza no ma questo è chiaro, però le voglio fare un'altra domanda. A questo punto della vicenda l'assessore Maran di Milano ha detto, insomma, ha ricordato che la concessione viene data sulla base di un'idea di servizio, un po' quello che dicevamo prima, e non, che non ci può essere dentro un elemento discriminatorio. Lei prima mi ha detto che Milano è l'unica città a chiedervi questa cosa, quindi adesso qual è, cosa risponde all'assessore che dice che invece voi così sareste discriminatori? Guardi, dovete trovare un'altra soluzione. L'assessore ha avuto un grosso, è stato intelligente nell'introdurre un meccanismo che consente una concorrenza tra gli operatori, tant'è che siamo 6 a operare in Milano. E ha consentito che ciascun operatore fosse libero sul piano tariffario. Credo che non potesse fare diversamente se andiamo a guardare le norme internazionali. Dall'altra parte però ha posto un vincolo che è in esatta antitesi con la logica stessa di questo servizio. Il servizio deve autoregolarsi, per autoregolarsi deve trovare un equilibrio tra la domanda e l'offerta di macchine in funzione di una serie infinita di variabili che sono la densità abitativa, lo storico dei flussi. Questo sì. E questo ha fatto sì che il sistema andasse completamente in disequilibrio, facendo sì che le macchine si accumulassero senza la possibilità oggettiva di essere riportate. Quindi indietro. Voi su questa scelta non tornate indietro? No, non torniamo indietro, assolutamente no. Questa è la nostra decisione, questa è la nostra scelta. E se mai gli utenti useranno altre macchine, perché giustamente gli utenti sono liberi, perché gli operatori sono 6, quindi ognuno sceglierà. Io sceglierò un operatore che non mette la sovrastanza che abita fuori. Esatto, l'utente che riterrà più opportuno usare uno dei nostri concorrenti lo faccia. Le posso chiedere, scusi, di questa scelta, ma consideri che ne stiamo scontentando uno per accontentarne 17,8. Ok, quindi diciamo anche una scelta, diciamo, di numeri, basata sui numeri, dal vostro punto di vista. Normalmente non li diamo, ma questa è la ratio. Noi abbiamo avuto sui nostri siti, sui nostri canali social, consideri che siamo stati molto trasparenti, abbiamo dato in ampio anticipo comunicazione sia formale al comune che ai nostri clienti, infatti non è ancora attiva questa FIA aggiuntiva, con ampio anticipo. E siamo perfettamente consapevoli del fatto che qualcuno sarà scontento. Abbiamo avuto 198 persone che si sono lamentate sui nostri canali Facebook, lo hanno fatto con grande veemenza, suscitando un grande interesse anche da parte della stampa, su 80.000 clienti. Quindi lei dice faccio anche una questione di numeri. Le posso chiedere però un'altra cosa, mi scusi, relativa a Roma, però, perché è circolata notizia qualche tempo fa sul fatto che a causa di troppe auto vandalizzate, anzi che avete troppe auto vandalizzate a Roma, è vero? Questa io l'ho smentita istantaneamente. Non era vero. Roma è in linea con le altre città italiane ed europee, appena più alto come numero di atti vandalici, ma non è assolutamente così. Qualcuno ha detto che volevamo addirittura lasciare Roma, invece no. Lo smentisco nella maniera più assoluta. Roma è una città su cui noi continueremo ad investire, così come faremo su Milano e su altre città. Va bene, grazie, buonasera all'amministratore delegato di Cartugo Italia. Buonasera. Grazie a voi, buonasera a mille. Carlo. Eccoci. Tra l'altro, scusa, tu non hai nemmeno la patente, quindi dico, ma ti appassioni? Non ho la patente, ma sono un appassionato di tutti questi servizi di car sharing, perché la trovo una grande soluzione. Giustamente tu prima ricordavi che ci sono ambientalisti che dicono anche questo alla fine incentiva l'uso dell'automobile, però io invece trovo molto buono perché tu puoi decidere di andare a piedi, in bici, con i mezzi pubblici, e poi se proprio ne hai bisogno prendi la macchina. Quindi è d'altronde che ci siano momenti in cui uno non ha veramente bisogno, magari perché deve fare un trasporto, ora ci sta che uno ogni tanto usi l'automobile, però ti dà la possibilità di non avere un'auto di proprietà o comunque di non andare sempre in macchina come prima idea. Poi dopo, nel caso, se ne hai bisogno, prenderai una Car2Go o un altro, un Enjoy e così via. Allora, abbiamo una piccolissima pausa da fare, velocissima, vai. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, Carlo, noi ci salutiamo, ci risentiamo. Ottimo. Più avanti. Ci sentiamo più avanti, sicuramente martedì in studio. Ciao, buona serata. Grazie mille, t'abbraccio, abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori, ciao ciao. Ciao, titoli della 7, vai. I dubbi della Germania sul piano di salvataggio della Grecia, la corsa contro il tempo per approvarlo. Il Parlamento di Atene voterà entro stanotte il terzo memorandum Tsipras, duro contro l'ala radicale di Syriza. Il suo partito si va verso la scissione e a sorpresa, nonostante la crisi, il PIL greco è cresciuto dello 0,8% nel secondo trimestre. Per il terzo giorno consecutivo la banca centrale cinese ha svalutato lo yuan in confronti del dollaro, non più una tantum ma precisa strategia che va oltre il tentativo di favorire l'export. Stavolta le borse europee però non ne risentono, anzi rimbalzano, Milano guadagna oltre l'1,5%. Ieri l'attacco, il governo non fa abbastanza sui migranti, oggi la precisazione sul sito di Famiglia Cristiana. Le dichiarazioni attribuite a Monsignor Galantino sono state riportate in modo esagerato. La parziale marcia indietro non cancella l'irritazione del governo. Offensiva dello Stato Islamico in Libia e Iraq, a Sirte, lanciate bombe su aree residenziali, morti oltre 30 civili, nuova strage al mercato a Baghdad, un camion frigorifero esplode nell'ora più affollata, morte 80 persone. Spunta l'audio di una telefonata tra ambulanza e centrale operativa del 118 nel caso Soldi, il ragazzo morto dopo il trattamento sanitario obbligatorio. Nella conversazione i soccorritori spiegano che i vigili urbani avevano compiuto un intervento invasivo, lo hanno un po' soffocato, si sentirebbe dire. La registrazione è ora nelle mani dei carabinieri del NAS. A Tianjin, un importante centro industriale a 120 km da Pechino, va in scena l'apocalisse. Una serie di esplosioni trasforma il centro in una palla di fuoco, ancora da accertare le cause. 50 morti, tra cui 12 vigili impegnati a domare le fiamme, oltre 700 feriti, ma il bilancio è destinato a salire e poi ci sono molti, molti dispersi. Eccoci qua di nuovo, buonasera a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi e adesso riprendiamo con i propri vostri interventi e cominciamo con Giuseppe che chiama da Bologna. Giuseppe, buonasera. Sì, buonasera, volevo riferirvi all'affermazione di Sgarbi. Sì. Se non sbaglio affermava che la Chiesa si deve occupare unicamente delle anime. Diceva così. Mi pare che la Chiesa, che è la continuazione del Verbo, cioè della parola di Cristo, per chi ci crede naturalmente, riporta tantissimi esempi di Gesù nelle sue parabole, vedasi il buon samaritano, eccetera, dove mi pare che si occupi propriamente di corpi, la resurrezione di Lazzaro. Ma cosa sta dicendo quest'uomo? Per me si sta comportando come una capra, sta dando via del suo. Lo invito a leggere. Come una capra è una citazione sgarbiana, perché è Sgarbi che usa spesso questa. Infatti lo ripago con la sua stessa. Quando diceva capra, con chi è che ce l'aveva? Non mi ricordo. Ti si ricorda in televisione? Quando non ha argomenti con chiunque da contrapporre, lui si rifugia sul capra pensando di essere l'imam della cultura italiana, ma secondo me si deve riferire soltanto all'arte di cui chapeau. Però scusi, è vero che la Chiesa offre un punto di vista morale sulla questione, non un punto di vista politico, perché altrimenti questa sì sarebbe un'invasione di campo e comunque non... Ma certo, io non dico questo, però sto vedendo che glielo dice uno che non è un cattolico osservante, però cioè l'imperativo dico... morale, accogliamoli, salviamoli, uno lo può sposare o non sposare, farlo suo o non farlo suo, però quello è un imperativo morale, non è una cosa operativa, pratica, concreta, come dovrebbe invece fare la politica, che è qui che manca proprio la politica italiana su no, questo. No, ma infatti sono d'accordo. Nell'organizzazione. e qui mi riferisco, seguendo il suo ragionamento, a Galantino, che fa un riferimento alla politica e al governo, soprattutto, che lo stanno facendo, sembra un po' Ponzio Pilato, ecco. Va bene, va bene, ma vede, è per questo che noi stasera siamo partiti da Don Colmegna, per andare a vedere come e perché, in quali casi la Chiesa, oltre a dare l'imperativo morale, poi fa anche le cose concretamente, quindi diciamo ha le carte in regola per fare la predica, capra, oppure no. Capra! Ecco, che minimo problema, e mi accodo anche al suo ragionamento. La grazie, buona tempo. Serata. Capra, capra! Questo non era, era dedicato all'ascoltatore, sì, vai. Andiamo con Paolo da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io chiamo dalla provincia di Verona e mi volevo un attimino fare un intervento, mi auguro costruttivo, a riguardo i soldi dei contribuenti, patti di stabilità e poi il problema grosso dei dissesti idrogeologici. Sì, qui, sì. Allora, sì. Io mi sono accorto di una cosa, qui parlo per esperienza nel basso veronese. 4 anni fa è stata fatta una fusione tra 2 consorzi di bonifica molto importanti. Morale della favola, hanno fatto una nuova sede, quando le vecchie sedi, vecchie per modo di dire, avevano 20 anni, è una sede imperiale, no bella, bellissima, imperiale. E ci sono i mezzi per le pulizie di fossati e quant'altro che perdono i pezzi per strada. Mm. E questo dice molto sui soldi dei contribuenti. Poi il secondo intervento riguardo sempre il discorso della pulizia di fossati. È possibile che con questi tutti pseudoambientalisti i fiumi non possono più essere puliti? Io abito vicino all'Adige e non ho ricordo dell'ultima volta che l'Adige sia stato pulito. Scusi, non ho capito cosa c'entrano gli ambientalisti col fatto che i fiumi non possono essere puliti. Perché è colpa degli ambientalisti. Non possono essere puliti in quanto perché? Si va a rovinare il microclima, si va a rovinare. Ma chi lo dice? Quali ambientalisti lo dicono? Beh, oddio, parlo non lo so, basso, magari. Veronese. Sì, no, no, parlo nel basso veronese, è stato fatto un progetto di pulizia con uno sbarramento per la produzione di energia idroelettrica e subito queste false ambientalisti hanno detto. Guardi, non lo so, io però so che in Italia, non so se esiste degli ambientalisti che protestano contro la pulizia dei letti dei fiumi, mi sembrerebbe una follia. Sicuramente succede spesso che si dice che sistemiamo i letti dei fiumi, poi in realtà stiamo andando a cementificare e a costruire qualche altra infrastruttura. Questo succede in Italia, perché altrimenti non saremmo arrivati fino al punto in cui siamo. Poi se ci sono gli ambientalisti così folli come dice lei, può darsi, non lo so. Io parlo del veronese, dove la cementificazione è molto limitata per quello che riguarda la zona. Insomma, il Veneto l'ha detto Zaia, non possiamo più fare infrastrutture, non ci può più essere cemento nel futuro del Veneto perché ce n'è troppo e quindi camminare un po' più anche nella pianura e vedere delle cose come sono. E faccio un'altra piccola esperienza, il castorino, la nutria qui nelle valli del veronese fa parecchi danni. No, danni veramente, qualcosa fuori dal limite, non si possono toccare. Quando le troveremo in città, allora forse qualcuno ci permetterà anche di eliminarle. Questo è vero, questo è vero. Bisogna intervenire, come anche sui cinghiali. Grazie, buona serata. Andrea da Milano. Andrea, prego. Io volevo riallacciare al discorso di Cartugò. Sì. Volevo fare una piccola segnalazione. Si parlava di macchine lasciate in periferia, Vaiano Valle, Ronchetto delle Rane, eccetera. Lo usi Cartugò? Tu lo usi? Sì. Sono cliente Cartugò. Ok. Settimana scorsa è arrivata la mail, 10 giorni fa circa, delle nuove zone. Mm-hmm. Fondamentalmente zona Greco Pirelli è stata tagliata, 2 metri dopo la sezione di Greco Pirelli siamo in zona periferia tipo Ronchetto delle Rane, Vaiano Valle. Cioè tu sei uno di quelli che abita fuori dalla zona? Cioè, io abito proprio fuori da Milano, però mi sposto coi mezzi e mi viene comodo, quindi... Cartugò, lavoro in quella zona, quindi mi viene comodo parcheggiare, utilizzare. E tu sei uno di quelli che dovrà pagare il sovrapprezzo? Questa è la domanda. No, perché banalmente parcheggerò 5 metri prima. Ah, e vabbè. Se puoi fare questo va bene, ma cosa volevi dire, Andrea? Si paragona Greco Pirelli, la zona di Greco Pirelli, a Ronchetto delle Rane, Vaiano Valle, eccetera. Non mi sembra così tanto periferia tanto quanto. Però scusami, ma chi non conosce le posti di cui stai parlando non capisce nulla. Cosa vuoi? Cosa... Sì, è vero, anche quello. Scusa. Comunque è una zona molto ben servita, non siamo nel Piazza del Duomo, ma comunque la zona centrale dove viene. cioè non proprio centrale, ma comunque non siamo ai bordi della periferia. Baiano Valle siamo in mezzo alla Pampa e alla prateria. Va bene, va bene, Andrea, grazie. Non abbiamo capito lo stesso, perché appunto sono cose talmente locali. Giancarlo da Milano, che si fa fatica, prego. Sì, buonasera, sono Giancarlo, chiamo da Milano, sono un utente di Catugò, oltre ad essere tassista di lavoro. Però utilizzo Catugò. Cioè, tassista nel lavoro e nel tempo libero, giustamente, no, non usi l'auto. Se mi devo spostare, ho l'abbonamento dell'ATM, utilizzo Catugò, utilizzo perfetto altri servizi di fast-sharing, ho l'auto a noleggio, quello che mi serve, chiamo un altro tempo. E questa sovrattassa per andare in periferia come la vedi? Senza ombra di dubbio la società aveva fatto i suoi calcoli, aveva visto quale tipologia di intervento tariffario onde scoraggiare una forma di utilizzo antieconomica per lei e a favore dei clienti. Quello che mi sorprende, come capita molto molto spesso, è l'intervento di Maran che tira fuori non possono variare le tariffe. No, non mi sembra proprio. Dal capitolato di quello che era il bando all'epoca non si parlava assolutamente di tariffe. Tra Maran e i tassisti non corre buon sangue, questo bisogna dire. Sì, ma in questo momento invece difendo una società che difendo una società che teoricamente va contro i miei interessi per il lavoro. Di conseguenza vuol dire che evidentemente non è che Maran sbagli solo con noi, evidentemente sbaglia in generale. Però perché dice che va contro il suo interesse, Cartugo? Non è vero il contrario, che la gente non compra più l'auto? La gente non compra l'auto, usa o il taxi o Cartugo? Ma secondo molti miei colleghi, Cartugo ci ha danneggiato i servizi di sharing. Io non lo ritengo assolutamente vero. Però in questo caso comunque lei la difende, l'azienda, e dice fa quello che gli pare. Non c'è nel bando una determinazione tariffaria. Non è che hanno fatto la determinazione tariffaria come quella dei taxi o della TM. Le società che questo l'ha detto anche Martino, hanno deciso le tariffe. Va bene, grazie, buona serata. Guardi, devo dare, manca a farla apposta le informazioni sul traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Andiamo con Maurizio che chiama da Roma. Buonasera Maurizio. Buonasera, senta, io appunto volevo rifarmi all'argomentazione quella relativa al nubifragio in Calabria, no? E secondo me appunto si parte anche dal presupposto sbagliato, cioè io penso che alla gente, la maggior parte delle persone, il fatto che le autorità, a cominciare dal Presidente del Consiglio, qua i ministri, eccetera, arrivino sul disastro, no? Il disastro già avvenuto, alla gente penso gli interessa veramente poco. No, io credo che, scusi se la interrompo, io credo che sia poco significativo il fatto che ci vada o no dal punto di vista poi delle conseguenze concrete, però credo forse che chi sta lì e è in mezzo al disagio, in mezzo alla frana, in mezzo al casino, il fatto che arrivino le autorità dà un senso, non lo so, di essere presi in considerazione, questo è possibile. Ma io penso che sarebbe meglio, più opportuno, che fossero stati presi in considerazione i 500 sfollati, se con un'opera di prevenzione, di allarme che doveva essere data al momento giusto, questa problematica non fosse sorta o comunque avesse un impatto sicuramente più modesto. Cioè questo è il problema, cioè perché non si fa prevenzione? Guardi che non si fa prevenzione e questo, magari non c'è più purtroppo il responsabile della protezione civile, non è un fatto episodico adesso, isolato di adesso. No, è vero, ricordo ragione. Bene che 3 anni fa a Olbia, sicuramente lo ricorderà anche lei, ci fu uno scandalo anche lì enorme, perché fu dato un preavviso alle prefetture il venerdì pomeriggio mediante le fax, che nessuno lesse, perché chiaramente a quell'ora siamo andati in tarda serata, siamo andati tutti quanti a casa, giustamente. Però voglio dire, e poi successe quello che successe, perché poi il sabato sappiamo, tra l'altro fortunatamente in Calabria non ci sono stati morti, ma mentre in Sardegna ci sono stati diversi morti, come si ricorderà senz'altro anche lei, no? Per cui anche lì è mancato un allarme. Sì, ho capito. Insomma, lei invita ad andare oltre il rito dell'emergenza, il rito della protezione civile, il capo del governo che va, che non va, eccetera, eccetera. Bisogna fare più lavoro prima, ma questo, guardi, è sacrosanto, è verissimo. Cosa ci dobbiamo fare? Purtroppo ce lo diciamo tutte le volte. Grazie, buona serata. scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia. Ecco Franca Energy che abbiamo avuto tra l'altro ieri sera, perché parliamo di biciclette. Beh sì, in effetti sì, perché nel solco delle storie di persone che a un certo punto della loro vita cambiano tutto, vi raccontiamo la storia di chi? Di Gennaro Miano, buonasera. Ciao. Ciao, che a un certo punto da una multinazionale ha cambiato strada e si è messo a fare un'attività in proprio che ha a che fare con la bicicletta. Quando però, prima raccontiamo, quando è scattata la molla che ti ha fatto cambiare vita? Che poi è sempre il momento più bello da raccontare, no? Perché è un momento vitale in cui succede qualcosa. Sì, fondamentalmente il processo è partito molti anni prima. Poi ci sono voluti comunque, ci è voluto comunque il tempo per maturarlo e arrivare a un giorno in cui ho deciso di dare le dimissioni e partire per l'India. Cioè, da molto tempo il tuo lavoro, diciamo, adesso esagio, non ti faceva schifo, non ti piaceva più, c'era qualcosa che non andava. Piano piano. E diciamo che la felicità, come dire, si era un po' saturata, non dava più soddisfazioni, e invece di continuare sullo stesso solco, c'è stata un'opportunità e quindi. Sei partito per l'India. Sì, sono un viaggio, tra l'altro con altre velleità, come un viaggio sabbatico, sì, per lo studio dello yoga, meditazione e altre cose. Quindi con e delle idee chissà di che tipo in testa. Invece poi più concretamente, prosaicamente, ti sei inventato un'attività. Mi sono mosso in India in bicicletta. Ho portato una bicicletta in Italia, quella che usavo in India, sì. È piaciuta. Ho scoperto che nessun produttore di biciclette indiane, che sono biciclette vintage un po', quelle con i freni a bacchetta, quelle con le ruote grandi, bianche e nere, sì, le portava in Italia, e al secondo viaggio in India ho deciso di fare questo tentativo ed è riuscito. Ma quindi scusami, ma vuoi dire che in Italia non ci sono biciclette con i freni a bacchetta? Sì, sì, di produzione italiana o inglese, però non di produzione indiana. Quelle indiane sono più belle? No, sono più economiche. Ah, ecco. Infatti il progetto è un progetto low cost, sì, che dà la possibilità di utilizzare una bicicletta a bacchetta, che solitamente ha prezzi abbastanza importanti, con una spesa molto meno della metà di quello che si paga in Italia. Nonostante il viaggio che poi tu, cioè, è che è a tuo carico, se sei importatore, quindi nonostante il costo, sì, del viaggio riesci a farle pagare meno che comunque che non... sì, comunque. E niente, sono ormai 3 anni che questo progetto piano piano sta prendendo piede, sta espandendo, ha anche raggiunto obiettivi oltre le Alpi, e continuiamo così. Cioè, vedi come da un viaggio, come da una cosa così anche semplice, banale, come mai poi, perché tu usavi la bicicletta e ti è piaciuta per te? Sì, la bicicletta non l'ho usata più per tanti anni, perché dai tempi dell'università, poi passando nel mondo del lavoro, utilizzando macchine, voli, eccetera, e lavorando poi per una multinazionale, si trattava anche di volare spesso all'estero, vivere all'estero. Sì. Tra l'altro l'India l'ho conosciuta grazie a una permanenza all'estero, a Singapore. E, tornato poi in India, si rallenta tutto quanto, si riprende una bicicletta e lì si riscopre un po' il gusto di pedalare. E da allora praticamente ho continuato a pedalare e ora in città mi sposto in bicicletta. Benissimo, come dice Franchi. Questa attività pensi che sia il tuo futuro ed è un momento, o è un momento? Cioè questa cosa di importare le biciclette dall'India è una cosa strana anche, no? Ha un futuro secondo te? Per te? Non lo so, nel senso che ogni anno io decido se continuare o meno questa avventura, se ci sono prospettive, se ci sono interesse da parte non so, di qualche distributore o nuovi mercati eccetera. Non c'è una, oppure se i costi di produzione delle biciclette in India aumenteranno, perché piano piano forse anche lì le cose cambieranno, no? Chi lo sa? Sì, perderà ovviamente la connotazione low cost, per cui non sarà più un'opportunità. E, come dicevi però tu prima, basta un pretesto, basta semplicemente un sogno, comunque un'idea per andare, per partire per un viaggio, per fare qualcosa, e poi le idee, le altre idee, le altre opportunità arrivano strada facendo. Non è detto che il sogno, l'idea che ti porta a lasciare un'azienda per fare qualcos'altro sia poi quella che tu porterai avanti per tutta la vita o comunque per qualche anno. L'India sta andando ancora molto, molto bene. Hai visto quello che è successo in Cina, che c'è stata un'improvvisa svalutazione, tutto un capitombolo delle borse, nessuno se l'aspettava. La Cina non cresce più come un tempo. L'India invece che tu frequenti... L'India è ancora una potenza in espansione. Considera che l'azienda da cui acquisto le bici ne fa 1600 al giorno, e quindi i numeri in India supereranno anche quelli della Cina nei prossimi 10 anni, anche come popolazione. Ma tipo le condizioni in cui lavorano le persone di questa azienda sono... Tu hai visto? Allora sì, io sono stato lì ci sono quattro grosse aziende, ne ho scelta una, ci sono stato 3 giorni, ho visto un po' come funzionano i processi produttivi. Le persone addirittura passano i figli nell'azienda, quindi è un'azienda a conduzione familiare, anche se poi è molto grossa, e mi sono sembrate condizioni indiane, ovviamente, però non di sfruttamento, comunque di condizioni pessime. L'India, per chi c'è stato, sa com'è fatta. Sì, tipo, insomma, c'è di peggio, ecco, che avere un lavoro in fabbrica e produrre biciclette e insomma... No, è tutto manuale, tutto un processo produttivo manuale, ci sono anche tante donne che si occupano delle ruote, dei raggi... Quindi per gli amanti proprio delle cose artigiane, il fatto che sia così un lavoro così manuale sicuramente dà un pregio anche a... E anche i difetti, ovviamente, perché la manualità comunque lascia spazio a sbavature. Avrai notato che non abbiamo ancora detto come si chiamano le tue biciclette, però adesso possiamo dirlo almeno una volta, non abbiamo paura di fare pubblicità, non importa. Si chiama? Le biciclette si chiamano retrociclette. Retrociclette, c'è un sito, vero, su cui si può andare c'è a cercare? Il sito è retrociclette.com, e da lì io non ho un negozio, vendo online. Tutto online, tutto online. Tutto online, sì. L'idea è anche di non avere un posto fisso dove stare, ma poter gestire questa attività anche dai miei viaggi, perché ho un magazzino dislocato a Milano, e ogni volta che arriva un ordine io emetto la bolla, diciamo così, però posso essere in Perù come in India. E ah sì, puoi gestire tranquillamente l'attività. E ci puoi dire chi sono i clienti invece delle tue biciclette? Chi è che compra più biciclette? C'è una città in cima alla classifica? Sì, Milano. Milano è il top, diciamo. Ma perché siamo in tanti o perché c'è un amore nuovo per la bicicletta, secondo te? Beh, la città sicuramente è più ciclabile rispetto a Roma. Roma con le salite non se ne parla proprio, con tutti i colli. Tra l'altro, come sai benissimo, le biciclette a bacchetta non hanno le marce. Per cui sono in acciaio, quindi hanno un peso che va intorno ai 20 kg. Che è tanto, 20 kg è tanto. Però in una città come la pianura padana vanno benissimo. Infatti da Padova sino a Torino è il mio mercato, e poi le coste dell'Italia. Quindi prima Milano, seconda città? Seconda città, non c'è una seconda città, perché comunque poi sono tutte polverizzate in tutta Italia. Quindi Milano. Dalla Sicilia fino a Bolzano. Milano so perché comunque c'è una richiesta molto forte, sarà anche perché ha questo stile vintage ed è accessibile economicamente, per cui non... Quanto costa una bicicletta? A questo punto daci anche il prezzo. Vanno da 150 a 230 euro. Vedo degli occhi sgranati di line dall'altra parte del vetro in regia. 105, beh, ragazzi, cioè un minimo la bicicletta oggi 120-130, ma proprio la più scarsa. Quindi è poco, sgranate gli occhi perché è poco. Quindi bravo. Le pacchette costano dalle 400 in su. Ecco, vedi, ci hai convinto. Grazie, buona serata, ciao Gennaro. Grazie a voi, ciao. Retrociclette, se vi ha convinto. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domani 18, 20 e 30, ultima puntata della settimana con Si può fare. Un ringraziamento a Leonardo Siligato, Isotta Shen, grazie a Gala, Paolo Colleoni in regia. Ciao a tutti da Alessio Maurizio, a domani, ciao, buonasera.